può fare. L'attualità, anche d'estate, di Alessio Maurizi. Nella vecchia azienda agricola, icola, icola, oh, quante bestie allo zio Cesco, esco, esco, esco, esco, ciao, ai pidocchi, occhi, pid, pid, pid, quante bestie allo zio Cesco, tutte su di sé. Contro tutti questi profeti di pessimismo, noi ci siamo, andiamo avanti. Ormai potremmo fare uno zoo con tutti gli animali, che gufi, sciacalli, avvoltoi. Sconsolato, non può più giocare. Lo zoo, se preferite, l'azienda agricola di Renzi, gufi, sciacalli. Oggi Renzi è andato a visitare il cantiere di Expo con tutto il suo ottimismo. Buonasera cari ascoltatori, 800 24 00 24, ben ritrovati con Si può fare, staremo insieme fino alle 20:30. Cominciate subito a prenotare il vostro intervento in diretta per commentare i fatti di giornata. Renzi, dicevamo, che è andato a salutare chi tra l'altro lavorerà senza sosta anche a Ferragosto sul cantiere di Expo con tutto il suo ottimismo. Sentiamo. Se devi fare il pessimista, fai un altro mestiere, non fai politica. Il politico non è l'ottimista nel senso così random del termine. L'ottimista è colui il quale costruisce un futuro che sia all'altezza dei propri sogni. E allora io vi dico che il 1° di maggio, quando inaugureremo l'Expo, non sarà soltanto il No Goofy Day, ma sarà anche il momento nel quale chi avrà lavorato, chi avrà messo un mattone, chi avrà messo un pezzo di legno, chi avrà costruito, chi avrà dissodato, ciascuno di questi si sentirà in qualche modo partecipe della vittoria dell'Italia. Però Beppe, io credo che noi dobbiamo darci un obiettivo in più. Siamo dati 23 milioni, se non vado errato, di biglietti, 24 milioni di biglietti da vendere. Sarebbe molto bello se noi riuscissimo entro l'inizio della manifestazione, dell'evento, arrivare a 10 milioni venduti. Nella vecchia azienda agricola. I milioni di biglietti venduti, secondo Renzi, devono essere 24 milioni, sarebbe bello arrivare a 10 milioni di biglietti venduti all'inizio, all'apertura dell'evento dell'Expo. Renzi che mette le mani avanti, si fa per dire, insomma, anche sul suo futuro politico, perché ieri sera ha detto: tra 10 anni io smetterò di fare politica. Non si sa se è una promessa o una minaccia, perché 10 anni non sono pochissimi. Sentiamo. Tra 10 anni io ho già smesso con la politica. Se ti vuole, credo che il sacro principio della rottamazione porta a dire che uno può fare al massimo 2 mandati. Se tutto andasse in modo perfetto, i 2 mandati finirebbero nel 2023. Tra 10 anni sarei già a fare altre cose. TV comprato, è stato un termine giusto da utilizzare? Per me no, io non l'avrei utilizzato. È una cosa che le dà fastidio? È una cosa che le, mi pare, le richiama? Mi pare di averle risposto. E così Renzi che bacchetta un pochino anche Alfano, ma l'aveva già detto, il termine vucumpra usato dal ministro dell'interno io non lo avrei impiegato per parlare del provvedimento contro l'abusivismo sulle spiagge. Gli animali dell'azienda agricola, gli animali sono anche quelli di cui parliamo a Si può fare in questi giorni, perché con gli ascoltatori naturalmente, perché dopo il caso del piccione ucciso da un farmacista milanese, passando, che ha sollevato le ire degli animalisti, passando per la vicenda dei dromedari regalati, anche qui con piccola scia di polemiche animaliste, dagli scout al parco di San Rossore di Pisa dopo il grande raduno della scorsa settimana, siamo arrivati, parlando con gli ascoltatori, al tema, siamo scesi di livello o siamo saliti di livello, a seconda, decidete voi, al discorso degli zoo. Gli zoo devono essere chiusi. Maria, ieri sera, ai microfoni di Radio 24. Gli zoo sono un'altra cosa, è inutile che lei dice hanno 100 metri anziché 10 metri, è una gabbia, è un arresto domiciliare. Vabbè, secondo lei è una gabbia, Maria, secondo me no. Certo, non hanno commesso nessun reato, mio figlio si guarda il documentario e mi ha chiesto: mamma, mi porti a vedere? Ma quelli che noi mangiamo hanno commesso reati, scusi. Gli animali vanno tolti dagli zoo e dagli acquari semplicemente perché non hanno commesso nessun reato. Vabbè, e tenerli Maria lì perché i nostri bambini li possano vedere è aberrante. Non è un ergastolo. Il mio toro è meglio di una gabbia non d'oro? Perché l'ergastolo, quando uno fa gli arresti domiciliari, è più felice di uno che è libero? Io non credo. Lo zoo come un ergastolo, Maria, ieri sera all'800 24 00 24, e noi abbiamo fatta risentire per sottolineare anche la furia, che adesso in questa parte si sentiva forse un po' meno, la furia con la quale venivano espressi questi concetti, una deriva, secondo me, di eccessi da parte delle persone che amano gli animali, giustamente, buon per loro, o che si definiscono animaliste. Se, premesso che nessuno vuole male agli animali, non io, insomma, che sono stato anche criticato per quello che ho detto, nessuno vuole male agli animali, però o facciamo tabula rasa di tutti i comportamenti, chiudiamo gli zoo, però allora evitiamo anche di tenere cani e gatti in casa, perché per il nostro piacere, insomma, oppure ne ragioniamo più tranquillamente. Speriamo di farlo anche questa sera. Castel Porziano, altro argomento. Il Fatto Quotidiano, il Fatto TV, è andato sulla spiaggia a Castel Porziano e passando di lì si sono accorti, lo hanno documentato con le loro telecamere, che c'è un punto in cui non si può passare, perché c'è la famosa tenuta residenziale del Presidente della Repubblica, del Quirinale, Giorgio Napolitano, che anche quando lui non è in vacanza lì a Castel Porziano fa sì che il passaggio sia bloccato, non si può transitare. Ci sono i finanzieri, la Guardia di Finanza che controlla, però ci sono i bagnanti dentro, amici, parenti, nipoti, pronipoti dei dipendenti del Quirinale, che stanno lì a fare il bagno, ma non si può passare. Privilegi del passato, forse, che non si riesce a togliere in Italia. Sentiamo allora il giornalista del Fatto che parla con il finanziere che fa la guardia alla tenuta. Non si può camminare sulla spiaggia. Perché? Tenuta presidenziale. Tenuta presidenziale della Presidenza della Repubblica. Sì. E quindi se voglio fare, voglio superarmi via mare, devo andare a 300 metri. Cioè se mi butto qui lei mi ferma. Sì. Quante bestie allo zio Cesco, esco. Questo è lungo questo pezzo di spiaggia. 3 chilometri, insomma. 3 chilometri riservati al Quirinale. Il Presidente della Repubblica, i suoi collaboratori usufruiscono del privilegio a lui. 3 chilometri di spiaggia, privilegio presidenziale, dice il finanziere, anche abbastanza, non dico seccato, ma insomma quasi dispiaciuto di doversi giustificare, perché in effetti è un fatto abbastanza incredibile. Dice dentro ci sono i suoi collaboratori. Poi dopo in questa inchiesta TV del Fatto Quotidiano si fa parlare anche una delle donne, delle persone, una signora che stava lì tranquillamente a fare il bagno, a prendere il sole, dice: io sono la cognata del genero, del cugino di uno che lavora dentro il Quirinale. Quindi insomma, collaboratori, si fa per dire. Direte voi, ma è un fatto di sicurezza per il capo dello Stato che non si possa passare, che ci sia un pezzo di spiaggia sostanzialmente sequestrato? Ma allora perché è chiusa anche quando Napolitano non c'è? Misteri dei privilegi d'Italia. 800 24 00 24. Tra poco cominciamo ad aprire il numero verde con i vostri interventi. Risentiamo anche Luca Zaia, presidente del Veneto, che ieri ai nostri microfoni ha spiegato perché c'è un ricorso alla Corte Costituzionale contro il provvedimento di Renzi sugli 80 euro, in particolare su come viene effettuata la copertura economica di quel provvedimento. Innanzitutto la mia regione non fa ricorso contro il provvedimento degli 80 euro, ma bensì all'interno di quel provvedimento su degli articoli che prevedono di prendere quei soldi per la copertura dalle regioni. Peraltro io le parlo da una regione virtuosa, per cui è bene ricordare ai cittadini che questo ulteriore taglio che ci viene imposto è sulla base della spesa storica 2013, il che vuol dire che tutte le regioni taglieranno sulla base della spesa storica 2013, vuol dire che chi era virtuoso e già aveva tirato fino all'ultimo dovrà tagliare ancora. Dovrà tagliare ancora, non ce la farà più, non ci sono più buchi nella cinta. Chi invece sprecava, sprecherà un po' di meno. Si può fare l'attualità anche d'estate. Vive macchina e metà in tasse, vive macchina e metà. Massimo Cacciari. Buonasera. E buona estate anche. Anche a lei. Siamo partiti così con Pittura Fresca, questa vecchia simpatica canzone sul, diciamo, l'odio da parte di tutti nei confronti delle tasse, perché il sottosegretario ai beni culturali Ilaria Burletti Buitoni ha rilanciato una vecchia questione più volte, diciamo, riproposta, quella di un piccolo balzello, una tassa ai turisti, un ticket per l'ingresso nella città di Venezia, che lei ha amministrato, che conosce benissimo, e ha già oggi sulle pagine di Repubblica lei boccia un po' questa proposta. Intanto c'è un problema di troppi turisti, come dice lei, a Venezia? Turisti mangia e fuggi, mordi e fuggi? Beh, certamente non sono pochi rispetto alle persone che si soggiornano a Venezia, ma lo stesso vale per Firenze, vale per tutte le grandi città d'arte europee, per uno giorno, due giorni, cioè ci sono almeno due volte, tre volte persone che vengono a Venezia per la città, e questo anche è normale. Cerchiamo di non scoprire sempre l'ombrello o l'acqua calda. È assolutamente normale, sì. Se lei va a Granada d'estate, durante la buona stagione, la domenica ci sono quattro volte i turisti che ci sono il mercoledì, così a Barcellona, così ovunque. Non scopriamo l'acqua calda in questo paese, cerchiamo di fingere di sapere ancora ragionare in questo povero paese. Certo. Ecco, detto questo, mi pare ridicolo pensare una tariffa. Ci sono delle tasse, delle tariffe che possono essere pagate per entrare in città in automobile, ci sono dappertutto, a Londra ci sono, a Milano se voglio entrare al centro storico devo pagare se non sono un residente, no? E molte volte anche io residente per entrare in certe zone di Milano dovrei pagare o pago la multa, io sì. Residente a Milano, quindi si possono pensare cose di questo genere, che a Venezia già ci sono, anzi a Venezia c'è una cosa che non c'è in nessun'altra città italiana, né straniera né europea, cioè? Non so quanto legittima dal punto di vista comunitario, molto semplice, che lei non residente a Venezia paga il biglietto di trasporti quattro volte il veneziano. Mi pare che sia sufficiente, no? Beh, in effetti questa cosa io adesso non me lo ricordavo, ricordava, ma è una cosa. È tanto forse che non vado a Venezia. Da 30 anni che c'è, e a volte allora, la Comunità Europea ha sollevato dubbi su questo. Io mi chiedo molte volte, guardi, mi chiedo se i nostri ministri si intendono di qualcosa. Se conoscono anche semplicemente questo fatto che ha detto lei, per esempio. Qualcosa, perché a volte escono con delle battute, delle fregnacce che ti lasciano di sale. Ora, a Venezia ci sono queste tasse, è molto caro il parcheggio della macchina, ma cosa vuole? Far pagare una persona che lascia la macchina su un parcheggio, scende dal treno e a piedi si avvia all'interno di una città e io gli faccio pagare il pedaggio nel senso etimologico del termine. Ma siamo matti? Cioè, a parte il fatto che poi si ricorre sempre alle solite strategie, cioè all'idea di far pagare di più, magari ma lasciamo perdere queste questioni di giustizia, sì. eccetera, no? Segue il ragionamento un momento, no? Cioè, c'è una città, io per entrare in una città pago la ZTL, benissimo, la pago, c'è spessissimo, c'è a Parigi, c'è a Londra, c'è ovunque io conosco. No, che di non poter entrare liberamente in una città con la mia auto se non sono residente, benissimo. Oltre tutto ciò, a Venezia c'è anche il fatto che appunto i biglietti di trasporti, unica città in Europa, per i non residenti costano tre volte e mezza per quello che costano per i residenti, ne è pas sufficiente. Poi c'è la tassa di soggiorno, giustamente finalmente applicata, ma è pas sufficiente. È più di questo, cosa devono pagare i turisti? Detto tutto ciò, come faccio a far pagare per entrare in una città il pedone che esce dalla sua macchina regolarmente parcheggiata o dal suo treno? Eh sì, ci vorrebbe un passaggio a livello, non lo so, una gavella, lei capisce, cioè si parla a vanvera in questo paese, bisogna finire di parlare a vanvera. E questo è il caso del sottosegretario, esatto, ma non è solo il caso del sottosegretario, perché ogni volta che si legge un giornale o si legge un'intervista e per caso te ne intendi dell'argomento di cui si tratta, cadi dalle nuvole, perché nel 90% dei casi dei responsabili parlano senza sapere alcunché. Sì, anche perché uno potrebbe dire, ma forse gli è sfuggita così, ma non credo, perché lei parla proprio di Venezia, beh, è una proposta che lei fa, vedremo, ma studieremo, capiremo, quindi non è una... Dopodiché che ci sia un problema di organizzazione, sì, dei flussi, c'è, ma si è fatto parecchio, perché se 20 anni fa c'era un terminale solo, Piazzale Roma, sì, adesso ce n'è uno attrezzatissimo, che è il Tronchetto, con dei grandi garage. I bus turistici finiscono al Tronchetto, non arrivano più a Piazzale Roma. Al Piazzale Roma arriverà tra breve, tra qualche mese, anche il tram, eccetera, eccetera. C'è una carta, lei può acquistare in rete una carta che gli dà l'accesso ovunque, musei, mezzi di trasporto, può acquistare tutto in una sua cartolina, lei va in giro, eccetera, eccetera. Cioè si è fatto molto per regolare i flussi. Detto questo, sì, vogliamo anche qui cercare di ragionare. E allora, se la permanenza media, lasciamo perdere quelli delle gite domenicali, ma se la permanenza media a Venezia e a Firenze arriva a stento a 2 giorni, è evidente che questi turisti dove andranno, secondo lei? Chiedevo oggi a un altro che mi intervistava, secondo lei il turista che va a Roma e dorme una notte a Roma va a Santa Sabina e non va a San Pietro? A Venezia va a San Pietro di Castello e non va a San Marco, a Firenze va all'oratorio del eccetera eccetera e non va a Santa Maria del Fiore, le sembra possibile questo? Ora è evidente che ci saranno delle zone di queste città che sono particolarmente intasate in determinate giornate ed è inevitabile che ciò accada, come a Granada è intasata l'Alhambra e non sono intasate le tombe di Carlo V. Cioè bisogna far conoscere tutto quello che c'è, anche le cose più piccole, insomma, che non comunque hanno un grosso valore. Possiamo stare a Venezia 2 mesi e mezzo, capisci il concetto? Sì. Ecco, allora questa idea di spalmare, come si usa questa parola magica, di spalmare queste maree di turisti nelle nostre città, che non bisognerebbe mai dimenticare, sono la nostra fondamentale ricchezza, va bene, perché il resto ce lo siamo fregati, va bene, manifatture, industria, ricerca, innovazione, quindi se ci portiamo anche questa ultima ricchezza sarà da organizzare meglio, ma non certo da disincentivare. Siamo matti? Ma siamo certo. Matti? Senta Cacciari, no, siamo folli, ma siamo folli completamente diventati in questo paese, non c'è rimasto che questa miniera. Ma e senta, la stiamo disincentivando in tutti i modi, non facendo manutenzione dei luoghi artistici, monumentali, facendo crollare Pompei. Adesso diciamo anche che i turisti peroni devono pagare la tassa per entrare a Venezia? Ma come mai, secondo lei, il sottosegretario Borletti Buitoni, che è una che vive nel mondo dell'arte, della cultura, dal suo punto di vista da sempre, ma ci sono, allora meglio un tecnico, meglio un manager? Ma caro lei, ci sono quelli che vivono nel mondo dell'arte e della cultura, quorum ego vorrei dire, forse più anche della cosiddetta Buitoni, ma che vivono quest'arte e questa cultura in modo totalmente astratto, come non ci fosse una economia del bene artistico, del bene culturale. Per carità, bestemmia affrontare le questioni culturali, artistiche anche sotto il profilo economico. Questa è la mentalità di costoro ed è una mentalità non solo sbagliata, sì, teoricamente, ma suicida per questo paese, assolutamente suicida, perché noi dobbiamo avere certo i soldi per mantenere come si deve Pompei, Palazzo Ducale, eccetera, eccetera, certo bisogna avere i soldi, ma poi anche dobbiamo avere una strategia di utilizzo di questi beni, se no una volta che li abbiamo recuperati crolleranno di nuovo. Però la strategia del riuso e, sì, dell'uso è fondamentale. Certo, però da parte di Renzi, per esempio, che non mi sembra uno che manchi di pragmatismo o di voglia di fare economia. Speriamo, cosa vuole? Su Renzi sempre speriamo che sia così, anche a me sembra che sia uno che, avendo fatto anche il sindaco di Firenze, di queste cose dovrebbe, sì, dovrebbe intendersene, perché ha fatto anche bene a Firenze sotto molti aspetti, dal punto di vista dell'organizzazione dei flussi, quindi speriamo che appunto questa butade di far pagare la tassa al pedone, ripeto al pedone, No, ma senz'altro passerà, ma senz'altro passerà e non se ne ricorderà nessuno e non diventerà mai un provvedimento. È quasi sicuro. Siamo ad agosto e poi, come diceva giustamente lei, non esiste in nessuna città al mondo una cosa del genere. Quindi non ha futuro questa cosa. Senta, però un'altra cosa che riguarda la sua città è questa questione che ritorna. Però adesso c'è l'annuncio sul tema delle grandi navi. Hanno trovato il percorso per scavare. Un altro è il solito. Però... No, io spero che questo percorso non verrà mai attivato, perché ecco. L'idea di scavare, ma perché l'idea di scavare un altro canale in laguna, sì. Ma insomma ci sono degli studi scientifici, cito soltanto quelli del professor Dalpaos, il più illustre idraulico dell'Università di Padova, non so, non parla a cacciare che non ne sa nulla di idraulica e di ambiente lagunare dal punto di vista... Lo dicono anche gli ambientalisti, quindi hanno ragione secondo lei. Ma certo che scavare un altro canale, ma sono 40 anni che andiamo predicando che una delle cause del degrado lagunare e anche in parte delle acque alte è lo scavo del grande canale dei petroli da Malamocco fino a Marghera, e ne scaviamo un altro canale... Non so, voglio dire, ne abbiamo fatti di tutti i colori in questa città, facciamo anche questa, perché no? Abbiamo fatto il Mose, cosa vuole che sia un canale in più, un canale in meno? Andiamo avanti così. Mi chiedo se a questo punto, piuttosto che scavare un altro canale, non c'è caso di far continuare ad andare le navi su quel canale della Giudecca, insomma scavare un altro canale a Venezia. Mi sfugge completamente. O c'è la possibilità di portare le navi passeggere attraverso il canale dei petroli a Marghera, creando un terminal. Questa è la proposta che fanno gli ambientalisti, sì, di usare Marghera. È la proposta delle persone di buon senso, perché scavare un altro canale, ma loro continuano a mandare. Ma allora perché vogliono fare quest'altro canale? È sempre una questione economica, per fare dei lavori? Si è montata questa querela sul canale della Giudecca, sacrosanta. E siccome vogliono continuare a portare le navi in marittima, e ci sono delle cause anche nobili in questa volontà, sia chiaro, perché il traffico crocieristico è un grande business per la città, mica solo per qualche milionario, vero? È un grande business per il turismo cittadino, eccetera, eccetera. Quindi ci sono delle cause serie anche dal punto di vista economico nel mantenere il terminal passeggeri crocieristico alla marittima, cioè nel centro della città. Però cerchiamo di ragionare, perché se per fare questo si scava un altro canale oltre alle spese, eccetera, eccetera, noi aggraviamo il degrado dell'habitat lagunare. E perché mai? Allora forse è meno dannoso continuare a portarle giù per il canale della Giudecca. Vabbè, staremo a vedere, perché anche qua naturalmente l'accordo c'è, però mica è detto che poi vada a finire così. Sì, mi permetto un'ultima battuta. Ma le sembra sensato, ma io mi chiedo, le sembra sensato che una questione di questo genere, che riguarda l'ambiente lagunare, la città di Venezia, eccetera, possa essere deciso a livello romano? Ma non le sembra ovvio che temi di questo genere dovrebbero essere decisi intorno a un tavolo dove concerta, non so, la regione, il comune, l'autorità portuale di Venezia, e la decisione viene assunta in perfetta autonomia su questo, intorno a questo tavolo? Ma cosa possono saperne a Roma del Mose, eccetera, eccetera? Veda, la più grande opera pubblica realizzata nell'ultimo ventennio, sì, a Venezia, il Mose, per la difesa delle acque alte lagunari, è stata decisa dallo Stato in termini totalmente centralistici contro la maggioranza del Consiglio Comunale di Venezia, che si era dichiarata in numerosissime occasioni, e con il voto contrario del Sindaco di Venezia. È possibile andare avanti così in questo paese? Ma non c'era il comitatone che aveva dentro tutti gli attori? Era uno, sì. Il comitatone, il Sindaco di Venezia era uno, la maggioranza era del governo e di autorità ministeriali. E quindi non c'era una vera rappresentanza. Che decisioni, sì, di questo genere vengono assunte. Capisco se si deve decidere una linea ferroviaria che attraversa 10 paesi, 10 regioni, 10 città, ma l'acqua alte di Venezia sarà un problema di Venezia? Il canale di Venezia sarà un problema di Venezia o è un problema di Roma o di Palermo? No, no, sicuramente è ovvio che è un problema di Venezia. Poi chiaramente forse chi ci deve mettere i fondi sarà anche Roma, quindi deve mettere voce. Però è ovvio che va decisa insieme a chi poi la deve subire queste decisioni. Senta, un'ultima cosa se vuole, in un minuto, le chiedo se vuole schierarsi su questa vicenda dei bronzi di Riace, perché sembrava una sciocchezza, una provocazione di Vittorio Sgarbi, portarli nominato ambasciatore per Expo, eccetera, portarli da Reggio a Milano per Expo. Però adesso... per esempio Daverio, il critico d'arte importante, non sempre in sintonia con Sgarbi, ha detto sì, la proposta è buona, almeno uno dei due portiamoceli. Poi il curatore del restauro ha detto beh, facciamo una copia e portiamola lì. Quindi è un tema che ha un senso, o no? Sì, trovare un grande simbolo per l'Expo potrebbe avere un senso, non vedo niente di scandaloso. Io ho visto, prima di vedermi a Reggio, le grandi sculture greche, io le vidi a Roma, al Quirinale. Che male c'è all'idea di usare queste opere d'arte come attrazione, simbolo per l'Expo? Non ci vedo assolutamente. È che la sovrintendenza di Reggio Calabria non vuole, poi non so chi deve decidere, se decide il ministero, il governo. Facciamo traffico di opere d'arte dalla mattina alla sera. I musei italiani le mandano in giro a volte a Vandera da una sera all'altra continuamente, e perché mai questa volta non potrebbe essere possibile? Mi pare un'idea niente affatto scandalosa. Benissimo. Certo, se la sovrintendenza dice che i grandi bronzi di Riace sono in situazione delicata e quindi il trasporto potrebbe essere dannoso, per carità, non si muovano. Sì. Ma di fronte a una valutazione di questo genere, non certo perché sia uno scandalo portarli in giro per il mondo e farli vedere, ma perché mai? Certo, non anni, non so, potranno stare lì due mesi iniziali dell'inaugurazione, tre mesi. Va bene, grazie mille, buona estate a Massimo Cacciari. A lei, arrivederci. Borsa. Si può fare. Si può fare. L'attualità anche d'estate. Buonasera, eccoci qua di nuovo, cari ascoltatori. Cominciamo subito con i vostri interventi all'800 24 00 24. Dopo aver sentito Massimo Cacciari su Venezia, anche un po' ruota libera su altri argomenti. Angelo, proprio da Venezia, buonasera. Buonasera. Prego. Beh, io ho sentito prima il suo intervento, anzi quello che lei ha riportato della trasmissione di ieri sugli animali e il rapporto di alcune persone con gli zoo. Ho notato che molto spesso le persone che hanno così tanto fervore nel condannare gli zoo sono le stesse che poi difendono a spada tratta i canili. I canili sono una forma di maltrattamento riconosciuta in tutti i paesi avanzati, infatti la maggior parte dei paesi non ha canili, associazioni protezioniste estreme come la PETA americana sostengono che oltre i 6 mesi un cane in canile è maltrattato, eppure c'è un'avversione contro quasi 1 milione di cani, cioè contro poche centinaia di animali che abbiamo negli zoo, nutriti, curati e gestiti in modo quasi sempre perfetto, mentre non vediamo il maltrattamento di queste di quasi 1 milione di cani e probabilmente altrettanti gatti, che sono gestiti in situazioni veramente precarie, spesso con malattie, addirittura con malattie infettive pericolose per l'uomo, che vengono minimizzate oppure considerate come influenti sulla qualità di vita dell'animale. C'è un aspetto importante, uno studio recente ha rivelato che gli animali che si sono avvicinati all'uomo e quindi si sono addomesticati, sì, Hanno avuto un successo darwiniano molto maggiore di tutte le altre specie, cioè noi abbiamo pochi lupi e tanti cani, tanto per dire le cose in modo molto semplice. Beh, ma questo è ovvio, perché noi i lupi li abbiamo combattuti, i cani li abbiamo allevati, quindi... Sì, esatto, però le specie che hanno accettato questa forma, sì, di collaborazione con l'uomo, diciamo così, e hanno parlato di parassitismo opportunista, c'è stata coniata una vera e propria categoria per questi animali, hanno avuto un successo di specie molto maggiore di quelle che invece sono rimaste, tra virgolette, in natura. Quindi l'idea di far uscire gli animali dagli zoo, a parte il fatto che questi animali cresciuti molto spesso o quasi totalmente all'interno di ambienti non naturali farebbero comunque una brutta fine. Sì, vabbè, questo non è un buon motivo per non eventualmente per non chiuderli, nel senso che basterebbe, diciamo, non farli riprodurre, ecco, in futuro. Però capisco quello che le vuoi dire. Andrebbero in libertà e poi sarebbero nati in cattività, non sarebbero in grado di sopravvivere a se stessi. Questo stavo dicendo. Se l'animale fosse nato in cattività, ovviamente ha una aspettativa di vita che è meno della metà di quella che ha all'interno di uno zoo o di un parco di qualche genere. Sì, scusi, ho detto male io, nato in uno zoo, sì. Sto parlando di strutture regolate, non di strutture di chi ha una gabbietta e tiene dentro la tigre per farla vedere ai vicini di casa. Comunque non c'è questo confronto. Chi difende a spada tratta il canile è lo stesso che poi dice che bisogna chiudere il zoo, o è maltrattamento da una parte oppure è maltrattamento. Sono d'accordo sul fatto che, cioè, o si fa tabula rasa su tutti i comportamenti che, diciamo, limitano la libertà degli animali, ma compreso tenerli anche in casa per il proprio piacere, oppure tutto il resto si dovrebbe poter discutere e cercare, chiaramente, di nessuno vuole male agli animali, non credo, insomma, tranne pochi folli. Grazie Angelo, buona serata. Giorgio da Roma. Sì, salve, in realtà sono in linea d'aria vicino Venezia anch'io perché sono in macchina. Ah. Allora, quindi siamo molto in zona veneziana. Allora, un piccolo contributo, sì. Io in realtà non sono un sociologo né, diciamo, un filosofo della politica, quindi mi dispiace che non ci sia Cacciari che poteva controbattere efficacemente, però sto leggendo un testo di sociologia che è abbastanza noto negli ambienti, si chiama Gli Outsiders di Becker del 1963. Leggendolo mi è apparso chiarissimo che il nostro Presidente del Consiglio rientra nella categoria che Becker chiama gli imprenditori morali. Chi sono questi imprenditori morali? Ce lo dica lei? Secondo Becker sono i creatori di norme, i creatori di strutture, gli inventori delle riforme, e che a tavolino decidono chi sono i devianti, cioè gli outsider. Allora, siccome io mi ritrovo molto nella categoria attualmente degli outsider, ma vedo che ci sono brillanti professori universitari, soprattutto parlo della riforma costituzionale, ma anche della riforma ad esempio in materia societaria dell'ultimo decreto legge 91, quella sulle autorità indipendenti, il decreto legge 90, mi trovo in una categoria, quella dei devianti, cioè di quelli che sono contrari alle riforme. Sì, Giorgio, io non ho capito quasi nulla di quello che ha detto lei. Beh, se vuol provare a rimediare in 30 secondi, così lasciandoci allora, un messaggio di speranza. In 30 secondi io mi trovo assieme a tanti professori e persone che conosco, stimati, noti. Vabbè, lei non è d'accordo, diciamo, con le riforme, va bene, ma tutto questo giro di parole per dirlo, sì. Tutto questo giro di parole per dire che Renzi a tavolino ha scelto chi sono i devianti, però... Diciamo, vabbè, Giorgio, ognuno fa le sue scelte, Renzi ha proposto delle riforme, le ha portate in Parlamento, e chi non è d'accordo con lui, sì, lui dice sono quelli che rallentano, quelli che sono contro le riforme, ma questa è dialettica politica, credo che non è che lo fa soltanto Renzi, la politica si fa anche con questo, no? Etichettando l'avversario come uno che frena, come uno che non va nella direzione giusta, eccetera, eccetera. Andiamo con chi andiamo? Con Giorgio, sempre da Torino, buonasera. Sì, buonasera a voi e a tutti i radioascoltatori. Io sarò brevissimo, volevo solo annunciare alla Brambilla e a tutti coloro che seguono le sue idee di fare molta attenzione alla liberazione di questi animali, non perché io non voglia bene a loro, ci mancherebbe, però voglio anche un po' più bene a me stesso e magari ai miei concittadini, nel senso che se questi animali sono sottoposti a degli esperimenti, diciamo, un pochettino particolari, e di solito sono sottoposti con iniezioni di batteri o cose ancora peggiori, magari hanno dentro di loro in incubazione qualche cosa di questo genere, che magari fra 6 mesi, 1 anno o 3 viene fuori che attacca questa cosa alle persone che sono umane, e poi di conseguenza ne viene fuori un'epidemia. Come lo andiamo a risolvere un problema del genere? Cioè, bisogna fare attenzione, perché non è una fantascienza o un film, è una cosa che realmente può accadere, può succedere. Se vabbè, noi non Giorgio, però attenzione. Non credo che se chiudiamo un laboratorio non autorizzato o se cambia qualche legge sulle sperimentazioni animali, poi gli animali vengano liberati così se hanno delle malattie. Io spero proprio di no. Adesso non mi crei questo allarme in più, perché se no, andiamo non a sbattere. Va bene. Constatazione. Sì, sì, sì, ho capito. Abbiamo capito quello che hai detto. Grazie, Giorgio. Buona serata. Andiamo a Bergamo, Gaetano. Sì, buonasera. Prego. Io chiamo per Venezia, sì? Perché io faccio il conducente di autobus e ogni tanto faccio un po' di turismo. E a Venezia, cosa che il sindaco mi dispiace che si sia dimenticato di dire, quando entri con un bus a Venezia, sì? a seconda delle dimensioni, paghi, ma non paghi 10, 20 o 30. Per fare un esempio, se entri con un pullman da 50 posti, anche se ne hai 20 su... Io ricordo l'ultima volta che ci sono stato qualche anno fa, anche perché poi le gite a Venezia sono molto diminuite, questo forse è il motivo per cui si cerca adesso di tassare i pedoni. Io ho pagato 280 euro con 21 persone sul pullman, solo per arrivare al parcheggio, sì, del tronchetto e lasciarle giù. Ma guardi che Cacciari diceva proprio questo, diceva che non è applicabile, non ha senso nemmeno pensare a un ticket in più per i turisti, un pedaggio in più, perché i turisti pagano già i mezzi di trasporto 4 volte tanto i residenti, c'è la tassa di soggiorno. Adesso lei ci sta dicendo, aggiunge, che gli autobus pagano 300 euro e quindi insomma pagano già abbastanza i turisti, questo è quello che diceva Cacciari. Io credo sia... anche abbastanza come dire, condivisibile, no? Piano quello che dicevano, cioè non è che c'è molto da discutere, Gaetano. Dopodiché, grazie anche per questo suo, diciamo, questa sua testimonianza. Ma scusi, Gaetano, è ancora in linea? Sì, mi dica. Ma questi 280 euro li paga solo ed esclusivamente per andare a Venezia, o anche in altre città ci sono allora, dei... Allora, in Italia ci sono tante città dove si pagano ticket di entrata, soprattutto le città toscane. Se vai a San Gimignano la famosa, ecco, sì. Se vai a Lucca, se vai a Pisa 200 euro, Lucca 250. Ma per parcheggiare in un parcheggio... No, le spiego. Cioè per poter entrare con l'autobus dentro la città. Allora, Venezia solo per lasciarli e poi paghi il parcheggio dopo. Invece in altri paesi, in altre città toscane, che sono quelle dove si paga di più, c'è... Alcune hanno il parcheggio incluso, alcune te lo fanno pagare a parte. Firenze, per esempio, te lo fa pagare a parte. Va bene. Grazie Gaetano anche per queste precisazioni. Traffico. Si può fare l'attualità anche d'estate. Capito, stasera vogliamo parlare di animali, insomma vogliamo un po' approfondire, capire meglio, perché lo ripeto, dopo il caso del piccione ucciso da un farmacista milanese che voleva scacciarlo dalla sua farmacia, aggredito questo farmacista dagli animalisti, poi abbiamo scherzato sui dromedari regalati dagli scout al parco di San Rossore, adesso gli ascoltatori di Radio 24, quelli più infervorati, che si definiscono forse animalisti, ci hanno chiamato dicendo, beh, anche gli zoo, bisogna chiudere gli zoo, sono degli ergastoli. Allora noi abbiamo convocato per capire che cosa succede negli zoo italiani Roberta Castiglioni, che è zoologa, divulgatrice scientifica e ricercatrice tra l'altro presso il Parco delle Cornelle di Bergamo. Buonasera. Salve a tutti, buongiorno. Ciao Roberta. Allora, lavori anche in televisione, ti occupi proprio di anche di questo, cioè di spiegare come funzionano gli zoo, come stanno gli animali anche dentro gli zoo. Fra l'altro il Parco delle Cornelle, che, scusa dico solo questa cosa qua, una notizia, è uno dei parchi che ha più apprezzato, diciamo così, dai turisti, perché è uscita una classifica di TripAdvisor ieri, che in cima mette l'acquario di Genova, e poi via via al quarto posto, credo, al Parco delle Cornelle, dove tu fai delle consulenze. Cosa fai? Porti i bambini a vedere gli animali? Sì, dunque io io sono responsabile della, sia della ricerca, quindi della ricerca faunistica, che della divulgazione scientifica, quindi con me lavorano una ventina di biologi che si occupano della divulgazione dai bambini agli adulti, perché tutti diciamo ne hanno bisogno. Ecco. E quindi sono tantissimi anni che istruiamo all'interno del parco la gente sulla conservazione della fauna, di importanza della conservazione della fauna. Sembra che è uno degli obiettivi del parco. Esatto, sembra comunque che questi parchi abbiano un po', stiano vivendo un successo che forse magari in passato ne sono nati anche di nuovi, non c'era, c'erano magari gli zoo tradizionali, quelli con le gabbie chiuse, molti di questi anche piccoli zoo non esistono più, adesso sono questi parchi più grandi, importanti, la gente, qual è il segreto proprio di questo successo secondo te? Ma sì, l'evoluzione c'è stata ed è tuttora in atto, come dicevi tu ce n'erano tantissime una volta, erano piccole raccolte più o meno piccole o grandi raccolte di animali in recinti appunto sempre più o meno piccoli, però per fortuna man mano che si va avanti nel tempo, anche grazie come si diceva prima alla presenza degli ambientalisti, dei naturalisti e degli animalisti che comunque hanno un ruolo importante che devono continuare ad avere, si sono evoluti gli zoo, per cui si sono salvati e tuttora sono vivono soltanto quei parchi che sono riusciti a mantenere determinati standard. Tra l'altro esiste anche un'associazione che è l'EASA, cioè l'Associazione Europea degli Zoo e degli Acquari, che ha una missione che appunto prende in considerazione tre elementi fondamentali, che sono che venga fatta educazione, ricerca e conservazione. Questi sono tre obiettivi che anche noi abbiamo sempre perseguito e che quindi si trovavano perfettamente d'accordo con questo, diciamo, con l'associazione europea che segue degli standard generali per tutti i parchi d'Europa. Quindi si sono salvati quelli che seguono queste direttive, diciamo. Ma lì alle Cornelle, per esempio, ci sono delle gabbie, ci sono gabbie grandi, come sono gli spazi? Certo, esatto, si sono salvati, dicevo, quegli zoo che hanno ampliato ovviamente gli spazi, ridotto quelle che sono le sbarre, quindi sia visivamente che realmente per l'animale c'è una minor costrizione. È ovvio comunque che se vogliamo andare a vedere, uno spazio non è mai abbastanza grande, anche per me uno spazio non è mai abbastanza grande, un parco non è mai abbastanza grande, no? Però man mano che passa il tempo si lavora in questa direzione, cioè nel cambiamento delle strutture, l'adeguamento delle strutture soprattutto alle esigenze degli animali, oltre che ovviamente al mantenimento della sicurezza del pubblico, perché comunque si tratta sempre di animali pericolosi. Ecco. Come saprai, ci sono anche delle critiche ancora più forti, migliorare, tu dici, ma c'è gente che proprio vorrebbe vederli chiusi gli zoo. Ti faccio sentire quello che ha detto ieri sera un'ascoltatrice piuttosto infervorata quando stavamo parlando di questo. Maria, sentiamo. Gli animali vanno tolti dagli zoo e dagli acquari semplicemente perché non hanno commesso nessun reato. Vabbè, e tenerli Maria. Lì perché i nostri bambini li possano vedere è aberrante. È aberrante, poi ha detto è un ergastolo, non ha senso. Ha senso secondo te tenere gli animali in esposizione per il piacere nostro di conoscerli e di capire e di vederli? Allora, se fosse soltanto una pura esposizione per poterli vedere, assolutamente no. Io mi occupo di fauna selvatica, studio gli animali che vivono in libertà e so che è bellissimo vedere gli animali in libertà. Quindi non avrebbe nessun senso. Il senso ce l'ha se questi ambienti dove gli animali sono presenti ha questi valori, cioè dove viene fatta educazione, ricerca e conservazione, perché comunque vengono visitati da milioni di persone ogni anno e quindi ci sono da più di 200 anni e continueranno ad esserci. Quindi in un mondo ideale anch'io vorrei gli animali tutti liberi, ma siccome questo non c'è in questo momento e non c'è ormai da decine, dei centinaia di anni, allora è inutile dire non li vogliamo, li chiudiamo, perché questo è il momento, in questo momento non può essere fatto e neanche probabilmente in un prossimo futuro. Quindi in questo momento vanno utilizzati al meglio. Quindi un bambino ha delle reazioni di fronte a un animale, io le vedo migliaia da 15 anni, da quando lavoro al parco, le reazioni che ha un bambino di fronte a un animale vero non sono e non saranno mai le stesse che comunque un bambino può avere di fronte a un animale visto sul web piuttosto che in televisione. Perché no, certo, le, è chiaro, questo le che provano. Ovviamente in quel momento bisogna catturare la loro attenzione e dargli un input importante, cioè la conservazione. Se un bambino o un adulto anche mi arriva davanti a un rinoceronte e si mette a guardare un rinoceronte, non deve farsi una risata semplicemente perché l'animale si muove in un determinato modo, va a spiegare tutta una serie di cose, appunto tipo che soltanto nei primi 6 mesi di quest'anno 600 rinoceronti sono stati uccisi in Sudafrica, cioè quindi stimolare la sensibilità della gente di fronte a quelli che sono i problemi di conservazione della specie. Certo, ma non solo guardare, perché gli animali hanno molti problemi in natura, sì, non in cattività, in natura, è questo che spesso non si vuol capire. Ma per esempio le leggende metropolitane tipo gli animali sono sedati e cose di questo genere. Spessissimo, no, soprattutto i felini, no, sì, gli animali non sono, ovviamente io posso parlare del parco dove collaboro, sì, no, per il quale, ecco, assolutamente non vengono sedati, spesso lo si dice di fronte ai felini, ma perché i felini in realtà cosa fanno in dormono, dormono molta parte, no, del giorno, esatto, l'animale, questo l'avevo imparato anch'io, penso, no, esatto, è così, gli animali o ricercano il cibo o ricercano un partner oppure dormono, quindi una volta che sono soddisfatti nelle loro esigenze fondamentali passano il tempo a dormire. Infatti è molto importante all'interno dei parchi svolgere un'attività che adesso appunto che si studia, come si studia da parecchi anni il comportamento degli animali, diventa sempre più rilevante, ed è quello dell'arricchimento ambientale, cioè per evitare che gli animali impieghino il tempo, per dire, o troppo tempo a mangiare o troppo tempo a dormire, vengono effettuate tutta una serie di attività per sviarli, per farli passare il tempo, cioè ci sono gli animatori anche per gli animali, insomma, per così, tipo villaggio vacanze. Senti Roberta, un'altra cosa, è giusto, sì, io ho paragonato il fatto di tenere cani e gatti in casa per il proprio piacere, sì, allo zoo, cioè insomma al fatto comunque di impiegare l'animale, di utilizzarlo al fine di un qualche cosa che è anche molto umano, ma delle, sì, persone, oppure è sbagliato questo paragone? No, anch'io spesso lo paragono, per semplificare faccio anch'io in genere lo stesso tipo di paragone, anche perché non bisogna dimenticare che gli animali che sono presenti negli zoo sono tutti ormai animali nati in cattività, le leggi sono molto ferree, giustamente, per cui nessun animale può essere catturato in natura per essere portato all'interno di uno zoo, per cui i parchi si scambiano gli animali tra di loro per evitare che si accoppino tra consanguini, c'è tutta una gestione a livello, in Europa soprattutto, a livello europeo degli animali, per cui comunque non che non abbiano più un determinato istinto, però sono animali che già da diverse generazioni nascono e crescono con noi lì al parco, quindi non è che uno deve pensare come stava bene questo ghepardo in libertà in mezzo alla savana, l'hanno preso e l'hanno portato qua. Ormai sono decenni che questi animali nascono e crescono con noi all'interno del parco, quindi un po' come il cane e il gatto, c'è una determinata abitudine. E per rispondere anche all'intervista fatta prima, la signora che era intervenuta, sì, comunque un altro problema che dovrebbe essere preso in considerazione da chi dice chiudeteli, tutti gli animali, e sono migliaia, milioni direi, nel mondo che vengono, sì, tenuti degli zoo, uno dei grossi problemi è dove li mettiamo? Nel caso ci fosse un ipotetico Beh, si riportano ideali, con un'arca di Noè al contrario nella, sì, savana, esatto, ma questa è solo una battuta. Roberta, un'altra cosa mi chiedono di chiederti, chi ha visitato il, sì, parco, io non sono mai stato, io sono stato altrove, come fate a non far scappare certi animali, per esempio gli uccelli, che credo sia a cielo aperto, e quindi di lì la domanda. Sì. Sì, noi in realtà abbiamo una grossa voliera, una grande voliera che ha una rete metallica, quindi in realtà la maggior parte dei nostri uccelli possono volare chiusi in quest'area di un ettaro, dove ci sono anche i coccodrilli, dove ci sono le scimmie, eccetera. Ci sono delle aree invece in cui delle zone, ma sono poche, in cui ci sono degli uccelli, tipo alcune zone di fenicotteri o di pappagalli, in cui sono a cielo aperto ma non possono volare, e viene impedito di volare tagliando la parte finale delle penne, che è un po' come tagliare i nostri capelli. Questo ovviamente per non creare un problema fisico agli animali, come veniva fatto tempo fa, dove venivano tagliati, diciamo, i legamenti delle ali, che era una cosa assolutamente inaccettabile. Adesso viene fatta questa il taglio di una della piuma, del piumaggio. La parte finale, esatto, del piumaggio, e viene fatto continuamente proprio per evitare, per far sì che svolazzino, ma che non possano proprio volare via completamente, per gli uccelli, diciamo, in riproduzione. Va bene. Poi i parchi tendono a tenere gli animali che fanno parte di progetti di conservazione, ormai non si tende più a tenere specie così, sì, quelle belle o quelle che serve tenere per eventuali progetti di conservazione, riproduzione in cattività e via dicendo. Allora grazie a Roberta Castiglioni per essere stata con noi, buona estate anche a te Roberta. A presto a tutti, arrivederci. Riprendiamo con qualche telefonata prima di andare poi al giornale radio e sentiamo chi sentiamo, Antonio da Napoli. Pronto, posso? Sì, prego. Buonasera, prima di tutto voglio dire, sono un animalista, condanno chi maltratta gli animali, però ecco, se si potesse dare lo stesso spazio che diamo agli animali, a quello che sta succedendo a quei bambini a Gaza che si arrampicano ai camion per pigliare i viveri, vengono trattati peggio degli animali, e nessuno ne parla questo. No, altro che animalisti, là sono gatti chiusi in gabbia. Questo l'ho detto anch'io, non solo per quanto riguarda Gaza, ma tante volte, in tante situazioni umane ci si preoccupa meno che degli animali. Sì. Io te l'ho detto, sono un animalista, figurati, le briciole io non le butto, le lascio sul balcone e le do agli uccellini. Litigo con mia moglie, vabbè. Lasciamo. Perché lei non vuole, naturalmente. No, perché dice che poi vengono le formiche, eppure che le sono animali. Senti, creature di Dio, sì. Volevo dire un'altra cosa, sul ticket dei turisti, no? Io do ragione a Cacciari, un grande sindaco, una grande persona. Far pagare il ticket significherebbe aggravare la visita di Dobbiamo fermarci, Antonio, dobbiamo fermarci. Grazie comunque, ci sentiamo dopo il giornale radio, dopo. Sì! Fare! L'attualità, anche d'estate. Nella vecchia azienda agricola, icola, icola, oh. Quante bestie allo zio Cesco, esco, ciao, ai pidocchi, occhi, pid. Quante bestie allo zio Cesco, tutte su di sé. Contro tutti questi profeti di pessimismo, noi ci siamo, andiamo avanti. Ormai potremmo fare uno zoo con tutti gli animali, che gufi, sciacalli, avvoltoi. Tutto converge perché si parli di animali. Avete sentito lo zoo, se preferite l'azienda agricola, per dirla con meglio le storie tese, di Matteo Renzi, che è tornato questo ieri in un'intervista in televisione a parlare dei gufi, degli sciacalli. E oggi è andato ai cantieri di Expo a Milano con il solito refrain sull'ottimismo: se sei pessimista non fai il politico. Ce la faremo, chiuderemo i lavori, chiuderemo i cantieri. Tanti auguri a tutti quelli che lavoreranno a Ferragosto per portare avanti il cantiere. Vabbè, ma questo è normale, che si lavori a Ferragosto in un cantiere che ha una tempistica importante come quella di Expo. L'obiettivo, dice Renzi, è arrivare a 10 milioni di biglietti venduti prima dell'avvio dell'evento. Però Beppe, io credo che noi dobbiamo darci un obiettivo in più. Siamo dati 23 milioni, se non vado errato, di biglietti, 24 milioni di biglietti da vendere. Sarebbe molto bello se noi riuscissimo entro l'inizio della manifestazione, dell'evento, arrivare a 10 milioni venduti. Una delle tante asticelle poste dallo stesso Renzi, che ama darsi dei traguardi, degli obiettivi, poi bisognerebbe anche divertirsi, non solo divertirsi, ma anche, diciamo, andare a verificare se questi obiettivi vengono poi centrati, azzeccati. Però c'è una corsa continua a porre nuovi obiettivi e quindi poi ci si dimentica quelli che sono stati posti prima. Del resto qua non è un vero e proprio obiettivo, ma è semplicemente così, un punto. 10 milioni di biglietti venduti, ne sono stati pronosticati 24 alla fine dell'evento, questo da parte proprio di chi sta organizzando il grande evento Expo. Giornata piovosa tra l'altro oggi a Milano, ma a parte questo c'è Renzi che parla anche delle parole usate da Alfano per definire il provvedimento contro gli abusivi sulle spiagge. Non avrei utilizzato l'espressione vucumpra. È stato un termine giusto da utilizzare? Per me no, io non l'avrei utilizzato. È una cosa che le dà fastidio? È una cosa che le... Cosa le richiama? Mi pare di averle risposto. Assolutamente soltanto un simbolo, un totem ideologico, oggi l'articolo 18, io ne sono convinto. E proprio quindi per non questo, è necessario abolirlo. E proprio per questo trovo inutile stare adesso a discutere se abolirlo o no. Che è un bel modo per dire non abbiamo una posizione, non sappiamo cosa fare su questo articolo 18, ma non è questo il centro della discussione per quanto riguarda il lavoro. Ci sono altri che non sono d'accordo, che dicono che invece quello è proprio una cosa da abbattere, lo ha detto da cambiare, lo ha detto Alfano per esempio. C'è chi invece attorno all'articolo 18 ha sempre costruito una difesa dei diritti dei lavoratori. Paola Carinelli, Movimento 5 Stelle. L'articolo 18 non è la priorità nel settore del lavoro, le priorità sono altre: l'abolizione della legge Fornero, l'abolizione dell'IRAP per le piccole imprese, gli incentivi per l'assunzione di nuove persone, il reddito di cittadinanza. Piccola inchiesta TV del Fatto Quotidiano, che è andato con le telecamere sulle spiagge di Castel Porziano davanti alla tenuta, all'ingresso della tenuta residenziale presidenziale del Capo dello Stato, la tenuta dove ci va Giorgio Napolitano in vacanza, ma ci vanno anche i dipendenti del Quirinale, e il giornalista con telecamera ha documentato come non si possa passare, non si può attraversare nemmeno la striscia demaniale, quella che in genere è di tutti e tutti possono passare, non si può andare nell'acqua. Se ti butti nell'acqua, dice il finanziere, io ti vengo a pescare. Sentiamo allora, anche se l'audio non è perfetto, come il dialogo un po' surreale tra questo finanziere che così deve spiegare sommessamente al giornalista quello che succede lì a Castel Porziano. Non si può camminare sulla spiaggia. Perché? Tenuta presidenziale. Tenuta presidenziale, la presidenza della Repubblica. Sì. E quindi se voglio fare, voglio superarlo via mare, devo andare a 300 metri. Cioè se mi butto qui lei mi fermo. Sì. Quanto è lunga questo pezzo di spiaggia? 3 chilometri. 3 chilometri riservati al Quirinale. Il presidente della Repubblica, i suoi collaboratori usufruiscono del privilegio a lui. Un retaggio del passato, un vecchio privilegio, oggi sicuramente che sarà criticato se questa cosa farà un po' notizia da tutti, non è più accettabile, non è più tollerabile, si dirà che ci sono questioni di sicurezza, ma la spiaggia in realtà è abitata dai bagnanti che sono amici, parenti, conoscenti dei dipendenti del Quirinale, pagano 30 o 60 euro, non si è capito bene esattamente, laddove normalmente per avere un posto per andare al mare si paga, tutti lo sanno, molto molto di più. Adesso sentiamo qualche dichiarazione del presidente della Lazio, Lotito, su Tavecchio, lui che è il suo grande elettore. È un ragioniere, quindi come tale secondo me la lingua latina non gli si attaglia, perché proprio perché ha un'estrazione culturale più matematica, e quindi ritengo quindi che alla fine dimostrerà con i fatti tutto il suo valore, che è un valore più che linguistico, è un valore di carattere pratico. Certo che dal punto di vista linguistico né Tavecchio né Lotito hanno le carte in regola per... Va bene, sentiamo ancora. È l'uomo del fare e non del parlare, un uomo che ha costruito due ospedali in toco, che ha una cooperativa di lavoro e che ha 3 bambini adottati di colore, quindi voglio dire è una persona che la cui vita negli ultimi 25 anni è tutta all'insegna di, chiaramente, di considerazioni opposte. Senza fare love non si può stare. Oh baby. Beach on the beach, femmine e uomini vanno a caccia, di occhi neri e di occhi blu. Quante signorine very nice fanno uscire pazzo tutti i boys. L'estate qua, you know, per farci innamorare ad ogni età, you know, frenare un poco e poi lasciarsi andare, you know, in fondo sai che quando torni back alla città tutto finirà, mannaggia ma, you know, per ora siamo ancora in summertime, you know, e allora che ci stiamo a preoccupare, you know, la senti questa musica, you dance insieme a me, ma se mi dici no, m'ammazzo, bitch. E questa sera l'ombrellone lo andiamo a piantare a Milano. Direte voi, che c'entra l'ombrellone a Milano? Niente, non c'entra niente, se non che il vice sindaco di Milano, Ada Lucia De Cesaris, che è in collegamento con noi. Buonasera e benvenuta. Buonasera, più con l'ombrellone a Milano abbiamo l'ombrello. L'ombrello, perché oggi la giornataccia piove. Vedi che siamo a tema. Oggi il vice sindaco ha accompagnato Matteo Renzi, presidente del Consiglio, nei cantieri dell'Expo. Adesso facciamo un punticino anche su questo. Però prima vogliamo parlare di un'altra cosa. La stretta, sempre più stretta, del comune, ne abbiamo parlato anche altre volte, si può fare quello che facciamo nel weekend in cui cerchiamo le buone notizie con lanternino, la stretta sulle slot machine, le macchinette mangia soldi, avete pubblicato la mappa online del comune su tutto il territorio dove non ci potranno essere slot machine per via dei regolamenti comunali, perché diciamolo, ce ne sono davvero tante, troppe di macchinette. Sì, ce ne sono moltissime, il gioco d'azzardo è ormai diventato un problema, una calamità per la città, e quindi noi, anche devo dire, prendendo forza da una nuova legge regionale, abbiamo previsto nel nostro regolamento edilizio, che è in procinto di essere approvato, una norma che in qualche modo rende ancora più restrittiva la possibilità di localizzare. L'obiettivo è avere una città no slot. Milano vuole essere in qualche modo l'esempio, la bandiera, per dire appunto anche al paese che si può fare una battaglia contro quella che è veramente una piaga per i territori e per tanti cittadini italiani e milanesi. Senta, non slot però che vuol dire? Che puntate proprio ad eliminarle completamente o a ridurle? Cioè, mi sembra che stia prevalendo, passando un concetto di delimitazione spaziale, importante naturalmente, perché basta guardarsi intorno, chiudono librerie, chiudono cinema, chiudono negozi e continuano ad aprire sale giochi. E cioè, questo è ovvio che uno non è che può stare lì, un amministratore, a guardare basta passivamente questa cosa. Certo, no, sì, ma l'obiettivo è quello appunto dei cosiddetti luoghi sensibili, e cioè far capire che ci sono delle zone nelle città e quindi anche a Milano che vedono la frequentazione di persone che possono dal gioco d'azzardo avere dei reali danni per età, per fragilità, per incapacità di comprendere la pericolosità del gioco d'azzardo. E quindi partendo dal principio dei luoghi sensibili, sì, dall'introduzione di una distanza da questi luoghi sensibili che è definita appunto a Milano e dalla regione Lombardia in 500 metri, si vuole appunto in qualche modo preservare il territorio e andare a ridurre, se non addirittura eliminare, la localizzazione delle sale, ecco, di gioco. Perché vediamo poi se abbiamo capito bene, perché al momento le concessioni che sono già state concesse, mi scusi il gioco di parole, sì, a chi ha queste slot machine nel bar, non possono essere tolte, cioè questi regolamenti non sono retroattivi, però quando dovranno essere rinnovate queste concessioni, allora sì che dovrebbero entrare in vigore. Cioè, c'è in previsione una diminuzione netta delle macchinette o abbiamo capito male? Guardi, intanto già il dato, da quando l'amministrazione milanese si è attivata, anche, ripeto, grazie alla normativa regionale, è un dato positivo, perché c'è una riduzione delle richieste e delle localizzazioni. L'obiettivo comunque, come ha detto lei, è un obiettivo per il futuro, cioè dalla legge regionale in poi e ancor più dal regolamento in poi, quello che noi vogliamo fare è impedire nuove aperture nella distanza prevista dalla legge, ma che è di fatto diventerà il 99% del territorio milanese. Scusi, però, non per essere essere insistente, però nuove aperture va bene, ma anche le concessioni già date al momento del rinnovo tra 2, 3, 4, 5 anni? Dobbiamo distinguere, perché di fatto le autorizzazioni vengono date dalla questura. Sì. Una volta che noi approveremo il nostro regolamento comunale, non sarà possibile aprire, cioè il luogo, proprio la localizzazione, ne faccio, sì, proprio un diciamo così, dal punto di vista territoriale, non sarà possibile alzare la clair, no? Sì. Perché noi non daremo autorizzazioni di nessun tipo rispetto appunto al luogo, quindi uno può anche ottenere l'autorizzazione della questura, ma con il nuovo regolamento non sarà possibile ottenere la localizzazione dal punto di vista proprio territoriale. E quindi però quelle però che ci sono già, che hanno già avuto autorizzazione in passato, cadranno o è da allora, di vedere? Quelle che hanno cosa? Già avuto l'autorizzazione in passato, né la norma regionale né il regolamento possono essere retroattive, e quindi per ora ce le teniamo. Sì. Noi le stiamo monitorando per evitare comunque qualsiasi violazione della norma e per fare in modo che vengano rispettate tutte le regole che riguardano la minorità e il rispetto appunto, sì, di alcune alcune condizioni del gioco. Speriamo che nel tempo, o con rinnovi o con trasferimenti, la norma regolamentare possa andare anche diminuire le sale esistenti. In più speriamo che ci sia un intervento nazionale anche, sì, a fronte di questo impegno che Milano sta mettendo. Senta, una cosa, tra l'altro bisogna dire che dal punto di vista politico è bipartisan, perché ci sono comuni amministrati dalla Lega, la regione, guardi, di centrodestra, Milano è amministrata dal centrodestra. Quindi, c'è una cosa che però mi fa un po' sorridere tra le previsioni, credo, dei regolamenti per quanto riguarda Milano, cioè l'idea dello psicologo che può andare nelle sale giochi o nel bar a fare dei questionari, a parlare col cliente. Io mi immagino il cliente che sta lì giocando e si vede arrivare lo psicologo e dice: ma questo adesso che vuole? No, sarà dura per gli psicologi riuscire a entrare. Però guardi, poi le cose vengono semplificate. Io penso che tutti gli strumenti e tutti gli interventi per porre rimedio al problema siano importanti. Noi da una parte dobbiamo impedire, come sta facendo Milano, nuove aperture, dall'altra parte dobbiamo però trovare anche delle modalità per far fronte al problema rispetto a ciò che esiste. E la gente chiede aiuto, e chiede controllo. Quindi tutti quegli strumenti che servono per dare aiuto, chi è in difficoltà, anche alle famiglie della persona che si trova imbrigliata in questo problema, quindi non sarà lo psicologo che andrà a bussare dentro le sale, peraltro le sale sono sempre dei luoghi difficili, no, se non si fa quel tipo di gioco. Io mi immaginavo però la scena sarà un servizio che io penso sia molto importante se organizzato a favore delle famiglie del territorio. Senta, veniamo però appunto anche alla mattinata di oggi, la visita del Presidente del Consiglio Renzi sui cantieri di Expo sotto la pioggia, è andato tutto bene con i tre Maurizi, Martina, Lupi e Sala, ha fatto anche questa battuta. Che Renzi si chiama Beppe però. Sì. Allora, sì, due Maurizi, sì. È andata a mio parere molto bene, positivo il fatto che il Presidente del Consiglio sia venuto e soprattutto sia venuto a salutare i lavoratori che stanno lavorando in modo molto serio anche il giorno di Ferragosto. Expo è sicuramente una grande occasione per Milano e per il paese, ci dobbiamo credere tutti, e stamattina mi sembra che si sia dimostrato che i lavori stanno andando avanti bene e che tutti stiamo lavorando per un obiettivo, ripeto, di interesse per tutti. Ecco, ma secondo lei la gente ha capito davvero, cioè questa cosa, cosa sarà davvero Expo? Perché lo stesso ministro Martina qualche mese fa, ma anche più recentemente, proprio ai nostri microfoni, ha detto sì, c'è in effetti sulla comunicazione per far capire, anche se ormai fra un po' ci siamo, c'è ancora da lavorare, perché la gente ha capito secondo lei che cosa sarà Expo? Ma guardi, forse fino in fondo ancora non l'hanno capito tutti, però sicuramente la gente ha capito che Expo può essere una grande occasione per far conoscere il paese e per creare una rete tra Milano e le altre città italiane e per valorizzare quello che l'Italia ha e può dare. Io dal mio punto di vista di amministratore, recentemente andando anche a Torino, a Roma, a Bologna, io ho capito che in realtà c'è una grande attenzione, una grande voglia di esserci, ma una grande attenzione sul tema, che poi è legato all'agroalimentare, che è legato alle necessità di incentivare e valorizzare la nostra agricoltura. L'Italia in questo tema ha qualche cosa da dire e può primeggiare. Secondo me Expo sarà una grande occasione anche da questo punto di vista. E poi quello che sta accadendo è che tutti hanno voglia di far conoscere il grande patrimonio turistico, culturale e artistico, e anche, e se noi riusciremo a fare rete come stiamo tentando e lavorando per fare, i cittadini tutti capiranno. Arriveranno i famosi bronzi di Riace, perché questa sembrava una provocazione. Ma scusi, che questo sia il problema. Io sono molto d'accordo con coloro che dicono si prende un aereo e si va a Reggio Calabria. Quindi lei non è una fan di vedere il bronzo di Riace a Milano. Si vanno a vedere, qui vedremo il Cenacolo, andremo a vedere le grandi meraviglie di Brera, del Museo del Novecento, e poi andremo a vedere il Museo Egizio a Torino. Ma è in qualche modo una decisione che avete preso, cioè non vi interessa andare? Non dipende sicuramente dall'amministrazione comunale, sono tutelati e credo che ci sia chi meglio di me può decidere. Io ripeto, è l'Italia che noi dobbiamo valorizzare nel suo insieme. Oggi abbiamo i mezzi e gli strumenti per far sì che Expo porti la gente a Milano e da Milano negli altri territori. Va bene, grazie per essere stato con noi e buona estate anche al vice sindaco. Grazie, comunque io sono sempre qua, arrivederci. Ada Lucia De Cesari, sì, vabbè, buona estate non vuol dire che vada in vacanza, ho detto buona estate perché comunque è estate. Borsa. Si può fare l'attualità anche d'estate. 800 24 00 24, riprendiamo con gli ascoltatori, andiamo a Walter che ci chiama dalla provincia di Modena. Buonasera. Buonasera. Prego. Pronto? Ah, ok. Tocca a lei, sì. Io ho poco più di 70 anni, sì. Sono nato in una famiglia contadina, perciò gli animali, e parlo di animali, li ho visti tutti, perché poi fino a 20 anni e passa, così, c'erano 20 mucchi nella stalla, i cavalli, tutto quello che uno vuole. E soprattutto, non lo so, sento parlare, ma molto spesso ho l'impressione che sia dentro, che gli animali non li conosce fino in fondo. Sì. Io ho sempre fatto cantiere, sempre costruito case, ho avuto i cani, li allevavo da piccolini, loro con 5 cani ho fatto 51 anni del mestiere di edilizia, no? In tutto il suo insieme. E vi posso garantire che il cane aveva una caratteristica, lo dovevi prendere da piccolino, conoscevo tutto nel tuo cantiere. Dico che gli parlavi, beh, insomma è quasi assurdo, però sapevo benissimo. Ultimamente, che sono in pensione, ho i gatti e le posso garantire che sempre sulla falsa riga di quello che ho imparato, prima di tutto io vorrei vedere qualcosa che eviti la castrazione, ecco, però facendo sempre controllando le nascite, sia ben chiaro. Cioè lei dice che la castrazione, a lei la castrazione non piace per gli animali? No, beh, certo non è una bella cosa. Non è una bella cosa sicuramente, molti che tengono gli animali in casa lo fanno, poi magari dicono e si professano a favore degli animali, però certo non glielo chiedono al cane o al gatto quando glielo fanno. No, ma io dico, come i contadini si castrava tutto, sì. È ben chiaro. Si ammazzavano anche per mangiare, figuriamoci se non si castravano, certo. Sì, d'accordo, beh, questo è un discorso da macellaio che non è mia competenza, però il discorso è questo. Il bue in particolare, no? Che veniva castrato, era un toro che veniva castrato, attenzione, diventava, non tutti, ma diventava violento, bisognava stare molto attenti, ve dico subito, non sto scherzando. Poi si castrava il coniglio, si castrava il gallo, cioè la gallina maschio, il gallo ovviamente diventava. Ma voi quando vi sentivate amici o nemici degli animali facendo tutte queste cose qua che ci sono? No, le dirò. Nell'uno nell'altro. Che mio papà mi ha insegnato, tu quando nasci un vitello, eravamo bambini e si andava lì, insomma, e allora quando nasce un vitello lo deve chiamare subito per nome, lo deve carezzare, infatti noi bambini quando nasceva un vitello avevamo uno straccio pulito, che so io, un asciugamano, non lo so, lo asciugavamo e poi lo davamo davanti alla mucca, ma quel vitello chiamato per nome, le posso garantire che quando si allevava, e se no andava venduto a macellare per una notte, quando si lavava quel vitello conservava il suo nome, questo me l'ha insegnato mio padre, e lo sto facendo con i amici. Un'altra cosa in casa, allora intanto ragazzi miei, la salute degli animali è essenziale, importantissima. Va bene, che poi costa il giusto, io lo dico con i gatti adesso, ci sono i vermi, bisogna stare attenti agli insetti che gli vanno addosso. Perciò grazie Walter, vabbè, adesso lei capisco che andrebbe avanti anche perché ne ha di esperienze da raccontare, però fermiamoci qua, andiamo con chi andiamo? Alessandro dalla provincia di Vercelli, buonasera. Alessandro? Pronto? Eccolo qua, prego. Io volevo intervenire sul problema delle slot machine. Sì. Non riesco a comprendere come ci sia una difficoltà a impiantare dei nuovi casinò in Italia, dove i frequentatori sono controllati, accedono in tenute più corrette, i minori sicuramente non possono entrare, e mentre basta vedere all'estero dove sono molto più diffusi i casinò e molto meno presenti le slot machine in tabaccherie, in negozi vari, bar e così via. Sì, io la penso come lei. Credo che qualche casino in più e un po' di meno di slot machine in città sarebbe più logico. Uno prende, va, entra, prende la macchina, va nel casino, gioca tutto quello che vuole, fa quello che vuole. Beh, evitando però che ci si imbatta proprio ogni giorno tutti, bambini, beh, disoccupati, pensionati, mettiamoci anche qualcuno un po' con qualche problema magari mentale, eccetera. Bisogna decidere di voler andare al casino, e allora un'altra cosa. Va bene, grazie Alessandro, grazie. Andiamo a... dove andiamo? Leonardo da Pisa. Sì, pronto? Buonasera. Sì, buonasera. Chiesto di poter fare questo intervento per un motivo molto semplice. Si parla di slot machine, io sono un operatore di zona, voglio dire, per cui dico, quando si parla di slot machine bisogna conoscere il problema e sapere. A lei è un operatore nel senso che sono un operatore che ha le slot machine a giro, o meglio ho le macchine comma 6A che non si chiamano slot machine. Le slot machine sono un'altra cosa, sono quelle macchine dove il pagamento lo decideva l'operatore, e si parla del 1964. Oggi le macchine hanno l'obbligo di pagare il 75% perché la scheda, se paga un euro di più o un euro in meno, si blocca. E come si chiama? Videolottery? No. No, no, la videolottery è quella macchina che permette di vincere 5.000 euro con un colpo. E come si chiamano quelle che gestisce lei invece? Le macchine comma 6A, quelle che comunemente vengono chiamate slot machine, che non hanno niente a che vedere con le slot machine vere e proprie. Mi spiego? Ecco, no, non ho capito nulla, ma è lo stesso. No, ho capito che meglio, se mi consente. Sì. Le slot machine sono un qualcosa che riguardano i casinò, riguardano il gioco d'azzardo vero e proprio. Sì. Quelle che gestiamo noi, autorizzate dallo Stato, sono le macchine che hanno l'obbligo di pagare il 75%. Macchine comma 6A. Comma 6A, ma non c'è un nome un po' meno burocratico? No, è questo, il monopolio dice che si chiama volgarmente così. Detto, cioè voi tra di voi dite vado a installare un po' di comma 6A. Noi diciamo che andiamo a installare le macchine da gioco. Macchine da gioco, vabbè. Come funzionano? Queste macchine possono pagare al massimo come vincita 100 euro. Ma lei, scusi, da quanti anni fa questo lavoro, se posso chiedere? Dal 1964, da quando esistevano 64? Ancora le 64, perché ce l'aveva mio babbo prima, per quello 50 anni che fa questo lavoro. Bravo, esatto, da quando sono arrivato in Italia. Ma il scusi, primo ma... in Italia che ce l'aveva era quei Rolo di Firenze. Ma fino ai primi anni 90 non c'erano questi giochi, scusi, cosa sta dicendo? Io lo spiego, fino al 95 non c'erano solo i videopoker, che sono arrivati fino al 2003. Sì. Fino al 2003, no, ma prima degli anni 90, cioè negli anni che dice lei, non c'erano, non era previsto il gioco d'azzardo? No, non era previsto perché non era né vietato né autorizzato. No, c'è un articolo del codice penale che lo vietava. No, non lo vietava perché nessuna legge, fino a che non hanno fatto la legge sul gioco del 2005, non c'era nessuna legge che lo vietava. Esisteva qualche questura che ogni tanto sequestrava qualcosa e qualche altra questura che non sequestrava niente. Addirittura hanno sequestrato anche flipper, parlo di Cecina per darle un dato concreto. Sequestrarono il flipper perché secondo il concetto della questura a quei tempi, le ruote che giravano nel flipper e che permettevano di vincere una partita al massimo, secondo loro erano considerate come una slot machine, per cui sequestrarono una decina di pezzi. Per fare un po' di storia, voglio dire, però capisco che non è la sede adatta. Però al di là di questo, voglio dire, quando si parla di macchine da gioco, le macchine che noi abbiamo nei locali, queste famigerate, voglio dire, dove vengono considerate, sono macchine che permettono di vincere al massimo 100 euro a partita. Nel contesto generale, se uno avesse la fortuna di prendere tutte le vincite che ci sono, al massimo possono vincere 700 euro, 7 o 800 euro. Perché la macchina contiene al massimo 800 euro nei pagatori e più che quello li può pagare. Ma un'altra cosa che è grave. Quindi voglio dire, non credo che 100 euro a partita siano quelli che stimolano il gioco. Forse il gioco sta da altre parti, sta magari nel videopoker online, dove magari hanno sicuramente sicuramente c'è anche quello. Dire, i monopoli, però scusi, tutti abbiamo visto l'aumento di slot house e di slot machine, io le continuo a chiamare così, di macchine a gioco, come direbbe lei, nelle nostre città negli ultimi anni, un aumento vertiginoso. Vertiginoso, mi perdoni, erano, come perché 240.000, da un dato concreto che si riscontra con i monopoli, erano 248.000 quando parlavo di fino a due anni e mezzo fa, tre anni fa, ora sono 345.000. Fino al 2003 già intanto in sono aumentate del 50% in un anno o due. E comunque se andiamo a vedere 10 anni fa non ce n'erano neanche la metà di quelle. Ce n'erano 800.000, ecco dov'è che manca l'informazione, cioè chi parla di queste cose deve sapere di cosa parla. Guardi, io mi fido di quello che ho visto con i miei occhi. Io tutte queste slot house 10 anni fa non esistevano proprio. C'erano le slot house c'erano le videopoker fino al 2003 esistevano in Italia 800.000 videopoker. Questo lo puoi riscontrare da tutti i dati delle associazioni. E dove stavano? In tutti i locali. In quale locale? In tutti i locali, in tutti i bar, e lei in tutti i bar li trovava. Sì. C'era da tutte le parti. Boh. E esistono ancora i videopoker, perché se va nel centro tutte, i videopoker ci sono ancora e nessuno li controlla, Va bene, che le devo dire, Leonardo? Lei ci racconta una realtà che è diversa da quella che ho visto io, però può darsi che sia io a sbagliarmi e tutti quelli che la pensano così. Per me è che quando si parla di qualcosa... Non cioè io capisco che lei ci lavori su questo, per l'amor del cielo, è un lavoro, però... Vorrei che quando fanno una legge magari sentissero anche gli operatori di zona, no? Un po' sono sentito soltanto qualche ministro, perché il ministro Riccardi aveva dato un input serio di quello che era il lavoro e di che cosa doveva essere fatto per limitare il gioco. Scusi, chiedere a voi come si fa a limitare il gioco, se un po'... Ma noi siamo i primi a volerlo fare. Sì, ma e quindi secondo lei come bisognerebbe fare? Qual è la sua proposta? È dare un'informazione come sta facendo l'Istituto di Milano, il Politecnico, dove informa nelle scuole quello che è la vincita, che sa uno, una volta che uno ha capito come funzionano queste macchine, è portato immediatamente a non giocarci. Ma la cosa principale sarebbe eliminare immediatamente la pubblicità su tutto il gioco. Perché se il gioco è come il tabacco, facciamo come il tabacco. Cioè lei dice non toccate il commercio delle slot machine, l'attività, la nostra attività, le continuiamo a fare come sono, però non facciamo pubblicità e facciamo informazione. No, possiamo farlo lo stesso, possiamo anche limitarlo questo gioco, ma non come stanno facendo ora che parlano di installare una macchina al di fuori delle scuole. Sono macchine che se un barista dovesse essere trovato con una macchina, un minore, ma un minore anche di 17 anni e mezzo che gioca la macchina, rischia da 5 a 25 mila euro di multa. Beh, se c'è una legge, che dobbiamo fare? È la legge, no, ma va benissimo questa. Io potrei anche a 50, ci figuri un po', guarda un po' che differenza c'è. La differenza sta che sicuramente la responsabilità deve essere di chi gioca, ma nessun barista permette il gioco minori. Nessun barista, guardi. Comunque, guardi, l'ho trovato l'articolo del codice penale, il 718 che vietava in Italia il gioco d'azzardo. Quindi quello che dice lei è... Prima... No, il gioco d'azzardo, se lo legge attentamente, si parla del gioco d'azzardo che veniva fatto nei bar, nei circoli, queste cose lì. Per quanto riguarda le svolte, va bene, macchine, Leonardo, non c'è una legge che non saremo io e lei adesso a fare la storia del gioco d'azzardo in Italia né a metterci d'accordo su quello che bisogna fare. Grazie comunque per il suo intervento, interessante sicuramente, perché apre scorci da parte di chi poi ci lavora naturalmente e ha un'attività economica su questo. Mario da Arezzo, buonasera. Buonasera. Di quale argomento vuole che parli? Perché vedo che tutti gli argomenti interessanti. Diciamo che è lei che ha chiamato noi poi l'abbiamo richiamata, però avrà un'idea su sì, io sono partito con i cacciarri, poi gli animali, per le slot machine. Comunque, diciamo che non sono d'accordo con i cacciarri, perché a Venezia non bisogna far entrare tutti i barbari, oppure devono pagare, perché... E altrimenti la distruggono, come stanno distruggendo tutto il mondo. Io sono anche agricoltore e chiaramente l'agricoltura sta fatta come ora, dove si guarda solo al beneficio e a discapito degli animali. Io sono 20 anni che sono in agricoltura e purtroppo ci rimetto, perché amo troppo gli animali e mi dispiace che siano allevati solo per il beneficio. Tutto lì, ecco, il discorso è questo. Se si vuole mangiare di qualità... In che senso pagare. Ci rimette lei? Non ce lo spieghi meglio? Ci rimetto perché il costo per mantenimento degli animali di un'azienda agricola per dare da mangiare non ti paga mai il costo quando vai a vendere il prodotto, animali al macello. Questo accade in molte attività, anche nell'agricoltura e anche nella sua. Soprattutto in agricoltura, l'allevamento. E quindi lei cosa pensa di fare? Andrà avanti così o...? Non lo so. Io ormai ho 70 anni e mi sa che... Fra un po' va in pensione. E i suoi figli fanno altro, si occupano di altro? Non ce la farò più, però io vedo che come all'estero, come in tutta Europa, chi vuol fare beneficio purtroppo lo fa a discapito sia degli animali che dei consumatori, perché fanno delle cose praticate, come la DSE che è tutta cosa della mucca pazza e tutto il resto che c'è. Quindi vogliamo la salute? Voi continuate a parlare di crescita? Ebbene, andiamo su quella strada dove distruggeremo il mondo, distruggiamo la natura. Speriamo di no, Mario, speriamo di no. Grazie comunque per il suo intervento. Adesso è il momento di andare in libreria. E non m'annoio, e no che non m'annoio, non m'annoio. Io no che non m'annoio, non m'annoio, no. Virtualmente in libreria, non m'annoio, Giovanotti, perché ritroviamo Franco Bolelli. Ciao Franco, buonasera. il nostro professore, filosofo, scrittore Franco Bolelli, che ci sta regalando un suggerimento di lettura una volta alla settimana in questa estate, nella quale speriamo di leggere un po' di più. L'altra settimana tu incautamente ti sei avventurato su Zarathustra di Nietzsche, così parlò a Zarathustra, hai detto beh, è una cosa pesante, impegnativa, però vi invito a leggere, saltare di palo in frasca se lo trovate troppo pesante. Io ti ho seguito, sono andato a casa, ho aperto Zarathustra, miracolo della natura, ci ho capito qualcosa, non pensavo assolutamente che potesse succedere, e adesso purtroppo sto andando avanti, purtroppo, perché comunque è un po' impegnativo, no, sto scherzando, è una bella avventura, però è vero che insomma, si può leggere anche Nietzsche, insomma, anche se uno non è un filosofo. Certo che sì. Ci avevi spiegato perché, insomma, l'entusiasmo è una delle tue prime letture. Mi era piaciuta la frase quando hai detto che è una filosofia, un pensiero che va bene oltre che per la mente, anche per i muscoli. È lì che mi si è accesa. Sì, questo è l'elemento vitale della filosofia. Perché uno dalla filosofia si fa spaventare pensando che sia concettuale. E c'è una filosofia concettuale, ma poi c'è una filosofia vitale. È una filosofia che ti serve veramente, che la senti crescere dentro in qualche maniera. E questa sera invece dove, cosa questa ci consigli? Questa sera facciamo una sintesi, nel senso che settimana scorsa Nietzsche e la filosofia, due settimane fa Don Winslow e i thriller d'azione adrenalinici, stasera parliamo di un libro che mette assieme le due cose. L'ha scritto Simone Regazzoni, giovane filosofo italiano, filosofo pop, il libro si chiama Abyss, è uscito da Longanesi appena prima dell'estate, ed è un romanzo d'azione, di quelli da grandi maestri americani, che per cui ti leggi per la trama, perché ti travolge, perché ti prende, perché vuoi capire dove va a finire, e nello stesso tempo parte dalla decifrazione di alcuni codici di Platone. Per cui è un romanzo che leggi come un romanzo d'azione, ma che parte da alcune enormi premesse filosofiche. Per cui mettiamo insieme le due cose. Come si può scrivere un romanzo adrenalinico in maniera assolutamente intelligente e colta, e come si può parlare di intelligenza e cultura in maniera adrenalinica ed eccitante. Qui secondo me c'è la sintesi perfetta in questo romanzo, che oltretutto, essendo un romanzo italiano, fa specie perché non assomiglia a un romanzo italiano in questo senso, nella maniera più assoluta, ma non è neanche d'altra parte la copia di un romanzo americano, perché ha una forte originalità anche di scrittura. Franco, fra l'altro, a parte che forse abbiamo un piccolo disturbo sulla linea, speriamo di no, tu sei un telefono fisso. Sì, quindi, sì, adesso sì, perché abbiamo... sono in campagna, il cellulare prende quando gli pare. Quindi abbiamo anche la garanzia, sei sul fisso. Stai animando un po', anche di questa sera vogliamo parlare, mi stai animando i tuoi seguaci su Facebook con degli interventi in questa, tu hai definito, infuocata estate, perché in effetti purtroppo la cronaca estera ci mette di fronte a certe notizie. Tu hai preso delle posizioni che inevitabilmente fanno discutere, perché non sei uno da mezze misure da questo punto di vista. Per esempio, per quanto riguarda Gaza, il Medio Oriente, quello che sta succedendo, tu parli di un'indignazione un po' a senso unico, per esempio nei confronti delle vittime palestinesi, e citi altri casi in cui c'è un completo disinteresse da parte delle stesse persone che si indignano per Gaza, però non gliene frega nulla dei cristiani in fuga in Iraq, o di quello che succede in Siria. E tu dici, o ci si indigna per tutto o non ci si indigna per niente. A me dà fastidio l'ipocrisia, mi dà fastidio il fatto che le vittime sono vittime solo quando le puoi usare per la tua ideologia. Lo trovo ignobile. Noi dobbiamo mettere tutta l'attenzione per le vittime di Gaza, per quelle altre ancora, però non le si può usare, perché altrimenti veramente l'ideologia diventa qualcosa di malsano, in cui tu solo se puoi attaccare l'Occidente allora ti scagli contro, a favore delle vittime, ma è usare le vittime, non è fare qualcosa per loro. Io credo che soprattutto oggi, io non sono tenero nei confronti degli errori dell'Occidente, sia ben chiaro, nella maniera più assoluta. Sì. Però non rendersi conto del pericolo terrificante del fondamentalismo islamico è un errore assolutamente catastrofico. Anche gli egiziani, che notoriamente da quello che mi ricordo non sono esattamente amici di Israele, hanno dovuto mettere fuori legge i fratelli musulmani parlando di fascismo teocratico, perché anche gli egiziani si rendono conto di questo pericolo. Allora mi viene da dire che se in nome dell'ideologia noi siamo disposti ad attaccare tutto ciò che l'Occidente fa, magari avendo ragione su certe cose, ma dimenticandoci di quello che è un pericolo reale che noi oggi stiamo vivendo su tutto il pianeta, beh, questo è ipocrita, il malafede è molto stupido. Però tu insomma, sembri quasi rinfocolare un po' la polemica, perché in questa fra l'altro chiaramente siamo di fronte a una guerra come quella tra Israele e palestinesi, forse mettersi da una delle due parti, da parte dei commentatori, dico, non aiuta sicuramente poi a chiedere la tregua, perché se siamo noi per primi a fare il tifo non possiamo chiedere a loro di fare la pace. Ma a parte questo, tu in questo scontro di civiltà che vedi, che adesso ci hai descritto, non hai paura di prendere posizione dalla parte dell'Occidente? Però questa cosa qua, ripeto, non rischia, noi siamo anche quelli che hanno fatto meglio di tutti le guerre, no Fran, o no? Oh, certo, ma infatti io non parlo dell'Occidente, della tradizione occidentale, io parlo del fatto che noi oggi siamo quelli da decenni che hanno inventato tutto quello, scoperto, esplorato, sì, la ricerca scientifica, tecnologica, medica, la comunicazione, gli stessi prodotti culturali, letterari, rock, le tecnologie, eccetera, eccetera. Noi siamo quelli che hanno inventato e messo al mondo, nelle nostre punte più avanzate, quello che serve a tutta l'umanità, non soltanto all'Occidente. Se oggi in Nigeria la merce più richiesta sono gli smartphone, non è perché sono vittime della propaganda occidentale, ma perché si rendono conto che sono degli strumenti straordinari. Allora a me dell'Occidente interessa questo. E poi non è questione di fare il tifo, nel senso che io troppo spesso, anzi, vedo una logica da schieramenti su tutto questo, però non ci può non essere scelta tra una democrazia avanzata, con un fortissimo rispetto per il femminile, con una importanza fondamentale all'educazione come quella di Israele, che commette degli errori terrificanti, sia ben chiaro, non è che in nome di questo si cancellano gli errori, e un fondamentalismo che vuole la guerra santa, che dichiara guerra a tutti, che lapida le donne adultere, che mette i bambini nelle condizioni in cui sappiamo, non c'è scelta, non è questione di fare il tifo, nella maniera più assoluta non mi sento tifoso, mi sento di cercare di proteggere, di espandere qualcosa che è alla base, non della sanità dell'Occidente, ma dell'intero mondo. Perché o le invenzioni che cambiano e migliorano la vita degli umani o vengono da qui, oppure negli ultimi, come minimo 200 anni, non sono mai venute da nessun'altra parte, con tutte le contraddizioni, i problemi, i disastri, le disfunzioni, perché guai, sì, a dimenticarsene, sia chiaro. Ma secondo te in tutto questo rientra anche, di nuovo ripetere, la questione dell'intervento militare in Iraq per mettere, diciamo, a freno l'ISIS e il fondamentalismo, questa idea folle del califfato? Sicuramente credo che anche, insomma, molti ferventi musulmani saranno perplessi di fronte alla follia del califfato. Però tu giustifichi fino ad arrivare di nuovo ai bombardamenti, alla guerra, dal tuo punto di vista? È quello a cui non si dovrebbe arrivare se si facesse un buon lavoro precedente, ma ci sono dei momenti in cui non è che puoi stare a pensare a quello che hai fatto prima. Se l'unico modo, io spero che non sia l'unico modo, ma non sono nei panni di chi decide in questo momento, per me è molto facile parlare, se l'unico modo per proteggere gente che viene massacrata in questo momento mentre noi stiamo parlando è quello di un intervento militare, beh, non sputo su un intervento militare. Sento un silenzio dall'altra parte. Lo so, perché la tua posizione è molto realista da questo punto di vista. Non è che dici sono a favore, però se non c'è altro da fare, e giustamente è facile mettersi dalla parte del pacifismo per chi non ha ruolo di responsabilità politica. Chiediamo... È molto facile, nel senso che il mio amico Giovanni Lindo Ferretti, sì, ex cantante degli allora CSI, è persona, certo, meravigliosa, no, al di là delle posizioni che ogni tanto cambia facendomi molto ridere. Una volta ha detto, anni fa, gridare pace, pace, come andare in un ospedale a gridare sanità, sanità. Chi non è d'accordo? Il problema è poi però cosa fai davvero per riuscire a difendere le vittime reali delle cose, a proteggerle davvero e non soltanto a usarle per la tua propaganda ideologica, perché questo non è onesto. Il problema, credo, forse è che, insomma, abbiamo visto tutti gli Stati Uniti e queste coalizioni a volte avere le idee un po' confuse e dare la sensazione di andare più a perseguire interessi, guerre del petrolio, adesso forse guerre di qualcos'altro, visto che il petrolio prima o poi finirà, e non esattamente a difendere, diciamo, l'ideale di cui parlavi tu. E questo forse poi fa cadere gli entusiasmi di fronte. Non crede altro, certo che sì. Non è che penso alla purezza adamantina di certi interventi umanitari nella maniera più assoluta, però non sarei neanche dall'altra parte per il complottismo esasperato, nel senso che se un tempo era facile anche per gli Stati Uniti appoggiare regimi orrendi e mandare avanti operazioni che avevano il puro interesse come punto fondamentale, oggi è un po' più complicato. A me che proprio in questi anni non avvenga più o meno, nel senso che una volta con il tipo di comunicazione di una volta, questa era un'operazione che potevi fare, da anni mi sembra che non venga più fatta, il che non nego comunque che dietro a certi interventi ci siano degli interessi, però non si può spiegare tutto con gli interessi, perché certe volte gli interessi di natura politica o di natura umana eccetera, o culturale sono prevalenti rispetto ai puri semplici interessi economici. Cioè sarei per denunciare duramente ogni intervento che vuole approfittare di una situazione, ma senza dall'altra parte però diventare paranoici ed ossessivi su questo, perché non sempre questa è la spiegazione. E va bene, insomma, sarebbe bello vedere anche qualche passo in avanti magari da parte della cooperazione internazionale, dell'ONU, dei luoghi di decisione più democratici dove si condividono questi impegni, magari meno atti unilaterali di guerra, questo sì, però insomma... È un tema, fermiamoci qua. Grazie Franco Bolelli. Grazie a te. Buona serata. A tutti, grazie. Abbiamo voluto comunque sentire le sue opinioni anche su questo, perché Franco, che noi abbiamo chiamato qua come guida estiva per le letture, è un filosofo, è uno scrittore e ha sicuramente questa capacità di usare le parole e di usarle in maniera anche molto netta, per cui sicuramente ci sarà gente che è rimasta scandalizzata per quello che ha detto, ma tant'è, per il momento stiamo solo parlando. 800 24 00 24, abbiamo una pausa, ce l'abbiamo, i 30 secondi di pausa, poi torniamo con i titoli dei TG. Renzi, del nostro caro Renzi, io ne potrei più sentire parlare, cioè, dunque, è come Dio, in cielo, in terra e in ogni luogo, la presente l'Istituto Luce, di un tempo, Mussolini era come perché lui, cos'era il sottotitolo dell'Istituto Luce? Diceva... E questo... Poi voglio tornare agli animali, sì. La gente si scandalizza per questi animali, ma anch'io poverini li voglio tanto bene, sì. I TG, tutti i TG fanno vedere i canili dove ci sono questi poveri cani disperati eccetera, ma ci fosse un cane di TG che facesse vedere, sì, il pezzo di uomini che sono nei nostri carceri che stanno peggio degli animali. La FEDU ci ha dato una penalità, sa, no? Siamo stati penalizzati dalla Commissione Europea e quindi, ma non se ne parla né nei TG né, solo i radicali ne parlano, e in quanto radicali che ne parlano vengono eliminati da tutti i TG e da tutti quanti. Perché non ne parlate un pochino anche voi? Va bene Angelina, grazie. Sicuramente le direbbero che quelli che stanno in carcere se lo sono meritato perché hanno fatto qualcosa di male, però si sono meritati una pena, ma magari non condizioni inumane, come diceva e ricordava giustamente lei, ma molti animalisti, o che sedicenti tali, non gliene frega assolutamente nulla di molti esseri umani, l'interesse è più del loro cane, del loro gatto bello sterilizzato che sta lì in casa, e poi hanno le loro teorie su quello che è giusto e quello che è sbagliato e le vorrebbero imporre all'umanità. Marco da Venezia, buonasera. Marco da Venezia, c'è o non c'è? Non c'è. Sì, c'è, qua. Eccolo qua, prego. Allora io volevo chiedere a tutti i bacchettoni, tra virgolette, che vogliono levare le macchinette videopoker. Anch'io, sono tra quelli, sono bacchettone anch'io. Sì, per carità, ognuno ha la sua opinione, però premesso che io non gioco ai videopoker assolutamente, sì, non ho mai buttato via soldi perché secondo me sono soldi buttati, ma le videopoker bisogna toglierle. E tutti i vari lotto, Suprenalotto. Ah sì, sì, ma magari che c'è una giungla, una prateria da falciare, da regolamentare. Guardi, è molto semplice. Il gioco negli ultimi anni in Italia è aumentato perché i governi hanno capito che è una fonte di entrate fiscali, quindi si gioca, il governo ci prende i soldi sopra, la gente sputtana un sacco di soldi, non è un gioco perché nessuno si diverte, tranne rari casi, tranne chi riesce a giocare con intelligenza, qualcuno ci sarà sicuramente, ma c'è stata, basta guardare le cifre, una esagerazione folle in questi anni, voluta da tutti, quindi lei ha ragione, non ci sono solo le slot, però giustamente, le ripeto, per me sono soldi buttati. Mi fa sentire i titoli della 7, un attimo. Certo. Segreto. Il Premier nega che l'Italia sia osservata speciale dall'Europa, poi saluta il Papa in partenza per la Corea e va a Castel Porziano per riferire a Napolitano sui conti pubblici. riforme e crescita. Domani tour nelle regioni meridionali. E Forza Italia fa pressing e chiede di estendere il patto del Nazareno alle misure economiche per uscire dalla crisi. Capezzone attacca, Renzi si impicca ai vincoli europei e nega la realtà. Una pesante manovra sarà inevitabile e Grillo scommette, Renzi delude i poteri forti, il governo non mangerà il panettone. L'Unione Europea prima rassicura, l'Italia non perderà i 41 miliardi di fondi europei, poi però avverte l'accordo è da riscrivere. Banca Italia diffonde le preoccupanti cifre del debito pubblico che tocca a giugno un nuovo record, 2.168 miliardi, nei primi sei mesi dell'anno è aumentato di quasi 100 miliardi. A Gaza muore un video reporter italiano, Simone Camilli, 35 anni, lavorava per diverse agenzie internazionali, tra cui la Associated Press, dilaniato mentre filmava gli artificieri che cercavano di disinnescare un missile israeliano. L'esplosione ha ucciso 5 persone, il papà del reporter dice aveva la passione del giornalismo, siamo fieri di lui. L'incidente a poche ore dalla fine del cessate il fuoco. In Iraq è mobilitazione internazionale intorno all'emergenza umanitaria creata dalla guerra jihadista scatenata dall'ISIS nel nord. Venerdì si riuniscono i ministri degli esteri europei per concordare un piano di interventi comuni. L'Inghilterra lavora già con gli Stati Uniti a un piano militare per aprire un corridoio umanitario ed evacuare le migliaia di profughi cristiani e yazidi perseguitati dall'esercito del califfato. Domani i funerali di Don Pierino Gelmini, aveva 89 anni, è morto ieri sera ad Amelia, sede della prima di ben 200 comunità di recupero per tossicodipendenti da lui fondate dal 1979. Figura controversa per diffondere... Vabbè, ne avevamo Marco che ci stava chiamando da Venezia, stava parlando appunto di tutti i giochi d'azzardo, non solo delle slot, però mi dice perché ha usato la parola bacchettone. A me questo non di essere definito bacchettone non mi va. Io penso che si debba regolamentare il gioco d'azzardo. Si regolamenta tutto del resto in Italia, adesso non si capisce perché proprio questa cosa, chi lavora a regolamentare è un bacchettone. Allora, regolamentare di sicuro è giusto, anzi andrebbe da un certo punto di vista limitato, nel senso che ci sono persone che ci mangiano sopra. No, ma poi è un'economia inutile. Scusa, io dico, chiudono le librerie, chiudono i cinema, che hanno un'economia alle spalle, chi scrive libri, chi stampa libri e chi li legge e non fa male a nessuno. E non ci preoccupiamo di nulla. Invece ci preoccupiamo se vogliamo chiudere le slot, che è un'economia che non... Cosa produce questa economia? Sono persone che ci lavorano. Ho capito, ricicliamoli, facciamoci fare qualcosa di più utile, perché non c'è utilità di nessun tipo. Si dice gioco e non fa ridere. È vero, le ripeto, allora, io non butto via. È un intrattenimento da non demonizzare, ma nemmeno possiamo fare sì che sia in tutti i bar, da tutte le parti, in tutte le città, le slot house, è una cosa incredibile. Non possiamo volere il mercato libero, lo Stato che lascia il mercato libero. Ma non è libero il mercato, non è libero di nulla, mi scusi, è tutto regolamentato in tutti i campi, giustamente, perché è giusto che i governi, gli stati, i comuni, le regioni regolamentino un po' le cose, non è che qua si può vendere e fare di tutto, il mercato libero esiste, ma esistono anche le regole. Sì. Ma le ripeto, mettere un limite solo sulle videopoker, che le ripeto, per me sono soldi assolutamente buttati, e non limitare in nessun modo. No, vabbè, ma facciamo anche quello, era sulla parola bacchettone che volevo sapere se lei è convinto. Proprio per questo motivo, tante volte, mi scuso se ho usato una parola sbagliata, ma tante volte... No, ma lei la può usare, che io non gliela contesto, però lei la può usare. Certo, tante volte io dico, si cavalca, non è il caso vostro, ma si cavalca l'onda della novità, della notizia. Ho capito. Okay. Lei dice, bisogna essere più coerenti. Quindi... Più coerenti, sì, più... Guardi, per quanto mi riguarda, io sarei per limitarli tutti questi giochi, sicuramente. E quindi in questo senso sono d'accordo con lei. Grazie, buona serata. Andiamo con Giancarlo che chiama da Brescia. Buonasera Giancarlo. Giancarlo? Sì, eccomi. Eccolo, tocca a lei. Allora, io intanto auguro una bellissima serata a tutti, a lei e a tutti i radioascoltatori. Premetto che sono un non vedente e volevo attirare un attimino l'attenzione, se possibile, a tutti gli animalisti che saranno in ascolto certamente, ed è cercare di dar loro voce per sentire il loro pensiero circa i cani guida. Circa i cani guida che sono condizionati, poveracci, no, a aiutare i non vedenti. Gradirei proprio sentire cosa hanno in proposito, no, questi signori qua. Ecco, per che mi possano illuminare, signor, scusi, mi scusi il nome. Ma non è che c'è molto da illuminare, cioè lei dice il cane che mi aiuta a attraversare la strada per me è importante. Lei forse pensa che per gli animalisti questo sia una cosa intollerabile e vuol porre la questione. Ha ragione, vediamo se qualcuno coglie questo intervento di Giancarlo da Brescia. Francesco da Bari, buonasera. Buonasera, salve, niente, sono in linea, sì? Sì, è in linea, tocca a lei. Niente, volevo dire sul discorso delle slot machine che sono sparse un po' dappertutto. Lo Stato non ha fatto altro, secondo me, che trasformare i consumi in, nel senso delle slot machine. Sì. La gente i soldi non li va a spendere sull'abbigliamento, al ristorante o si compra qualcosa. I soldi li consuma a queste macchinette e quindi il denaro va via. C'è la crisi relativa, secondo il mio punto di vista. Io la penso in questa maniera. Non ho capito bene, cioè lei dice che la gente in realtà sta spendendo, cioè non spende per i consumi, ma spende per le slot. Beh, certo, sicuramente. Io vedo gente che si consuma in una perché serata, guardi, psicologicamente, adesso faccio il psicologismo anch'io. È chiaro che uno spende i 5 euro, i 3 euro in un gratta e vinci, in un gioco, pensando magari di mettersi in tasca 50, e allora dice, beh, insomma, è un piccolo investimento che fa, c'è un gioco, poi a volte è un intrattenimento. E sicuramente può darsi che, come dice lei, va a togliere spese per altri consumi. Probabilmente di fatto è così, magari non saranno consumi necessari, perché uno non si toglie il pane per giocare, questo no. Però forse meno slot potrebbe anche essere più, ma lo dicevo anche prima, più economia, diciamo, un po' più utile, non so, è un'eresia dire che le slot machine sono un'economia inutile? A me sembra che sia così, poi... Francesco, voleva aggiungere qualcosa? Sì, no. Volevo dire un'altra cosa in base ai musulmani, di quelli che stanno in guerra da quelle parti. Secondo me ci sono certe religioni che sono semplicemente vengono sostituite, invece di essere una dittatura, la religione crea la dittatura. Cioè ci sono questi posti qua, sono praticamente tenuti sotto scacco dalla loro stessa religione. Non so se mi sono un attimino spiegato nel modo ma sì, insomma, Francesco, ci sono posti che saranno secondo me vittime nel tempo della loro religione, che poco da fare. Va bene, grazie Francesco. Lisa da Como, buonasera. Prego. Ma quello che volevo dire, io l'hanno già detto in tanti, io dico che lo Stato è il primo biscazziere d'Italia. Sì, anche perché una volta il Superenalotto e il Lotto si giocava una volta alla settimana, poi due, adesso tre. Lo vedi che sta tutto nelle regole, lasciando perdere poi la questione dei gratta e vinci con le macchinette. Ma è tutto aumentato in questi anni, lo Stato ha liberalizzato sempre di più, proprio per farci i soldi sulle entrate fiscali. A suo vantaggio. Sì. A suo vantaggio, giusto? Perché io dove vado a prendere le sigarette, vedo gente accanita in un modo a giocare a quelle macchinette e perdere dei grandi soldi. Sì, che è una stupidaggine assoluta. Poi uno è libero di farlo, però non ha molto senso. Uno è libero di farlo, ma poi creano anche gli psicologi perché, per curare questa gente malata di gioco. E lo Stato, torno a ripetere, è il primo biscazziere. Va bene, Lisa, non grazie. Tra l'altro, voi a Como potete. No, poi, già che ero al telefono, posso dire una cosa che esula da questo discorso? Dica. Volevo augurare buon riposo al capitano, mio capitano Robbie Williams. Va bene, grazie Lisa. Andiamo con Massimiliano da Cosenza, buonasera. Sì, buonasera, io chiamo da Cosenza anche se sono di Milano, sono fortunatamente uno di quei pochi italiani in vacanza. Volevo esprimere qualche considerazione sull'intervento del filosofo Bonelli, che mi ha fatto accapponare un po' la pelle. Lo ritengo assolutamente parziale e omissivo. Lui dipinge l'Islam come questo nemico, il fondamentalismo questo nemico dell'Occidente, senza considerare che è un nemico creato dallo stesso Occidente. È storia il fatto che... Lui non ha detto nemico però, lui ha detto che noi occidentali abbiamo molti meriti, anzi secondo lui la civiltà occidentale è superiore ad altre civiltà, però non ha parlato di nemici. Possono dire certe cose anche senza utilizzare termini espliciti. Comunque lui parlava anche di ricorrere all'uso delle armi contro il fondamentalismo, io vorrei ricordare a lui. Non la sentiamo, Massimiliano, sentiamo malissimo. Proviamo a recuperarlo, magari. Facciamo la pausa per il traffico, ce l'abbiamo? Sì, traffico. Si può fare l'attualità anche d'estate. Caffè, li ho già presi perché sono stanco di stare al volante, vorrei arrivare entro sera da te che aspetti me nel castello lassù, con la treccia già sciolta, affacciata al balcone vestita di blu. 7000 caffè è l'effetto che ho quando arrivo al portone, ti vedo gridare con gli occhi il mio nome, perciò vieni verso di me e io pazzo di te, in un attimo ci diamo il bacio più dolce che c'è. Ho bisogno di te. Massimo Mallia, titolare di Anticaffè a Roma. Che succede se uno entra nel vostro bar e chiede 7000 caffè, nel bar a tempo, dove non si paga a consumazione ma a tempo? Buonasera. Perfetto, intanto si riceve uno splendido buonasera e poi praticamente si paga soltanto per il tempo che si passerà all'interno del locale, quindi tutto quello che noi possiamo offrire di caffetteria o da un buffet di snack dolci e salati è tutto compreso in una tariffa oraria. Siamo partiti così un po', ecco, tariffa oraria di 4, è un po' così gamba tesa, però in realtà vogliamo capire bene perché siamo un po' duri di comprendonio. Allora, è una novità per l'Italia, credo, il bar a tempo, cioè si entra nel vostro bar e si paga 4 euro l'ora. Sì, praticamente la prima ora costa questo, ma in realtà il nostro è uno spazio che è contemporaneamente un bar e uno spazio di quelli co-working si chiamano, quindi posti dove si può andare a lavorare, studiare o semplicemente passare del tempo piacevole con gli amici, con dei giochi da tavolo o riviste o libri, e contemporaneamente quindi si può ordinare quello che si vuole pagando solo il tempo che si sta. Però se io prendo solo un caffè e vado via, posso pagare anche solo il caffè? Assolutamente sì, ma è assolutamente più conveniente restare, perché comunque sì, adesso al di là di un singolo caffè comunque ci sono tante opportunità, ecco. Sì, cioè può diventare un po' anche un posto, insomma, magari per qualcuno che vuole lavorare, ci sono delle postazioni, appunto, c'è il wifi. Sì, sicuramente c'è il wifi illimitato con una linea particolarmente veloce e poi lo spazio è molto ampio e c'è anche una sala riunioni, quindi a seconda delle esigenze del nostro cliente noi riusciamo comunque a organizzare da una riunione di lavoro a una festa privata magari, quindi siamo a disposizione, noi mettiamo lo spazio e l'opportunità, poi ascoltiamo tutti e vediamo che cosa possiamo organizzare in merito. E nel frattempo uno può prendersi quello che vuole. A me è venuto in mente quel film, non ricordo più quale fosse, in cui Renato Pozzetto era senza fissa di mora, si arrangiava in qualche modo, a un certo punto entra in un bar e chiede un bicchiere d'acqua che non si paga e poi ci mette dentro il latte e lo zucchero, comincia a bere. E il barista lo guarda e dice, vabbè figlio mio, però questo è quello che può succedere in certe situazioni. Come, da quanto tempo avete aperto? Come ha reagito la clientela? È stato molto bello perché noi abbiamo aperto solo dal 20 giugno, quindi tra il 20 e il 26 giugno abbiamo fatto inaugurazione e poi apertura, e il quartiere, soprattutto che è San Giovanni, ha risposto benissimo all'inizio con tanta curiosità perché chiaramente si tratta di un'attività nuova e un po' particolare, e piano piano però il flusso di persone è aumentato sempre di più, tanto che comunque sì, adesso siamo belli impegnati, quindi tutto bene. Funziona, siete ancora aperti adesso? State per chiudere per la pausa di Ferragosto? Sì, siamo aperti fino a domani, poi chiudiamo da Ferragosto fino al 24 agosto compreso, quindi torniamo in azione il 25. Dal punto di vista economico, avrete fatto bene i vostri conti? Immagino, fra l'altro, si tratta di un'esperienza che viene da altri paesi, esattamente dove è iniziata questa moda, tendenza, questo nuovo tipo di... Esistono già due Anticaffè, questo è il terzo, esistono in Francia. Sì. Il modello di business che comunque sia è alla base dell'Anticaffè è stato pluritestato dalla loro esperienza parigina, e quindi comunque sia non c'è nessun rischio, nessuna questione su questo. E funziona molto bene perché comunque sia riesce a bilanciare in modo più o meno perfetto quella che è la qualità di quello che offriamo, insieme a un servizio che comunque cerca di far sentire le persone molto a casa loro piuttosto che ospiti di un locale. Un'esperienza quindi un po' diversa rispetto al bar dove uno entra un minuto e va via, certo, è chiaro, certo. Cerca di creare un'esperienza diversa, ma che succede davvero se io, che ne so, entro in preda a un raptus e comincio a chiederti un succo di frutta, poi un altro, me le metto in tasca, non so, no, chiaramente questo non sarà possibile. No, ok, ci sono sempre due situazioni. Sì. Tendenzialmente è molto difficile che qualcuno voglia abbuffarsi o fare un tipo di scena del genere in pubblico davanti ad altre persone. Mm. E poi chiaramente c'è sempre il discorso che pagando la nostra tariffa a tempo comunque sia rientra in quelli che sono i nostri servizi. Se vuole un esaurimento nervoso con 100 caffè, noi glielo possiamo fornire. È capitato qualcosa del genere? Devo dire la verità, ancora no, e sono molto contento di questo perché era un tipo di situazione non che mi preoccupasse più di tanto, però comunque sì, ero molto curioso di vedere la risposta italiana perché quella francese l'avevo già vista, e per adesso abbiamo veramente un tipo di clientela assolutamente educato e precisissimo, molto attento, e quindi noi siamo contenti così e speriamo che per loro sia lo stesso. Chi avete? Giovani, meno giovani, disoccupati, cosa avete? Allora, anche questo è molto bello perché tagliamo un po' tutti, ci sono tanti, soprattutto adesso che fa molto caldo, ci sono degli anziani che magari vengono a leggere il giornale la mattina, nel corso della giornata sempre dei giovani perché facciamo anche tariffe scontate agli studenti tra l'altro, ma noi puntiamo molto anche sui lavoratori, quindi sui freelancer, su chi ha bisogno di un ufficio mobile e magari trova nell'anticaffè il posto giusto dove sostare per qualche ora. Siamo nel quartiere, diciamolo, a Roma? Siamo detto? A San Giovanni, sì, San Giovanni in via Veio 4. Vabbè, così abbiamo fatto anche il momentino, diciamo, momento proloco. Sì, grazie. Momento spot, in bocca al lupo, grazie, buona estate, Anticaffè a Roma. E questo era Massimo Mallia, il titolare di un bar, avete sentito un'esperienza che arriva dalla Francia. E niente, funziona così, entri, paghi a tempo e non a consumazione. 800 24 0024, andiamo a Vicenza, dove ci chiama Luciana, buonasera. Sì, pronto? Allora, avevamo un ascoltatore in attesa, sì? Sì. Vabbè, però adesso facciamo Luciana, che ormai l'abbiamo chiamata in ballo, poi la Massimiliano facciamo dopo. Luciana, prego. Buonasera. Sì. Senta, io volevo solo portare una mia denuncia. Sono stata poco tempo fa a Livigno in vacanza e andando sulla cabino via la Costaccia, sì, alla prima fermata che si trova, c'era un piccolo recinto con dentro due cervi, uno piccolino e uno molto grande con delle corna enormi, che andava avanti e indietro con un movimento meccanico automatico e continuava ad andare avanti. Perché era una piccola gabbia, un piccolo recinto. Sì, ecco, una cosa veramente penosa. Ma che cos'era? Pensare... Una cosa del corpo forestale? Che cos'era? Privato? No. Io penso che sia privato perché lì c'è una cabinovia che... Vabbè, che dove porta. Siamo? Dove siamo esattamente? Così magari qualcuno può raccogliere il suo appello. A Livigno. A Livigno, va bene. Sì, grazie, Costaccia. Luciana, buona serata. Massimiliano da Cosenza, avevamo già in linea, prego. Sì, eccoci. No, io ritengo che sia importante per comprendere il presente, soprattutto per migliorarlo, conoscere il passato e quindi la storia. E questo è il passaggio che secondo me ometteva appunto Bonelli. Il fondamentalismo è stato sovvenzionato direttamente, è stato fomentato direttamente e indirettamente dall'Occidente. Possiamo in molti casi sì, ha ragione anche lei. Sì, casi, dall'Afghanistan allo stesso Pakistan. Fomentato ma non inventato però, fomentato sì, sovvenzionato, sostenuto, lo hanno utilizzato per fare delle guerre anche sporche, però non è che il califfato è un'invenzione americana, è un'invenzione... No, però se lei avesse... Signor Bonelli avesse letto... Bonelli, Franco Bonelli, sì. Bonelli avesse letto le recenti dichiarazioni di Hillary Clinton, ex segretario di Stato di Obama, e adesso sì, si sta ponendo in competizione per succedergli, ha dichiarato che l'ISIL è una creatura degli Stati Uniti, messa sul campo per contrastare Assad. Sì, sì, ma questo è vero. E poi fuggitele di mano, e la situazione è quella attuale. Se qualcuno degli ascoltatori ha visto la mappa che il califfato, che l'ISIL ha individuato come quella che sarebbe l'estensione del califfato, avrà fatto caso che non è compresa in quel territorio né Israele né tantomeno gli Stati Uniti. Quella del califfato, quella dell'ISIL, è una lotta essenzialmente ISIS. Interna. Grazie Massimiliano, abbiamo capito. Buona serata. Felice da Taranto, prego. Buonasera, Felice da Mottola, in provincia di Taranto. Benissimo. Volevo dare la mia testimonianza. Mottola cos'è, al mare? Mottola? No, su una montagna, collina a circa 7-8 km dal mare. È un bel paese? Sì, si sta bene. No, siccome ci ha tenuto a sottolineare. Vabbè, ma ci andate al mare, vicino? Sì. Sì, ci andiamo, certamente. Sono 7-8 km. Hai visto, che meraviglia. Prego, Felice. Ma c'è l'IVA però, a pochi chilometri. Quindi conviene andare un po' più lontano. Un po' più a sud, sì. Conviene, sì. Mm. Allora, grazie di avermi fatto intervenire. Volevo portare la mia testimonianza in merito alle, a quei locali dove ci sono le slot machine all'interno. Sì. Ok, qui a Mottola c'è un locale dove giocano esattamente a 20 metri dalla villa comunale, dove la sera, soprattutto l'estate, si riuniscono bambini, signore, ragazze. Insomma, se c'è una legge in merito che recita a 8 metri, forse io credo, se non ricordo bene, 200 metri, 100 sì. metri dal, dai luoghi dove sono frequentati da ragazzi, secondo me queste autorizzazioni chi le deve dare? Allora, il guardi, comune? Felice, facciamo, non lo so esattamente, credo, intanto l'esperienza di cui abbiamo parlato, Milano, sono leggi regionali, leggi comunali, bisogna vedere quale, quale regolamento c'è a Taranto, in Puglia, cosa prevede, e quindi già è una cosa locale. Non è chiaro se c'è una legge nazionale, io almeno non ho capito, perché c'è stato il tentativo di farla, poi è stata edulcorata in vari modi la legge sulla distanza dai luoghi sensibili, non è una cosa nazionale al momento, ma sono iniziative locali, quindi bisogna che lei faccia conto su quello che avviene nella sua regione. Poi, sa, se vuole fa un bel ricorso contro qualche TAR o qualcosa del genere, e così vede se aveva ragione lei, ha capito? Più che ricorsatare, io penso di andare al comune a chiedere informazioni. A chiedere al comune informazioni. E dopodiché agire. Anche questo. E dopodiché eventualmente. Io vedo ragazzi. Sì, sì, sì, sono d'accordo con lei. Vedo ragazzi la sera che entrano, escono, escono, entrano, insomma. Cioè anche. Ma a parte il discorso delle autorizzazioni accanto a dei luoghi sì? frequentati da ragazzi, però la legge nazionale prevede che al di sotto di una certa età, esattamente, di sotto i 18 anni, non si può entrare. Però la gente continua ad entrare, io non vedo un vigile, non vedo nessuno, non vedo un carabiniere. Non vedo guardi, un questo è un altro tema, i vigili non ci sono, i comuni non hanno i soldi per pagare gli stipendi, se ce li hanno fanno altre cose, non si sa cosa, perché poi, vabbè, adesso lasciamo perdere. Grazie Felice, buona serata. Buona serata, andiamo con Guido da Roma. Buonasera. Buonasera. Senta, io sono di opinione un po' contraria rispetto alla maggioranza degli ascoltatori riguardo queste limitazioni alla sì. diffusione delle slot. Prima di tutto il gioco è già ora vietato ai minori di 18 anni e quindi si tratta soltanto di far applicare una determinata regola. Dopodiché per una serie di motivi che molto diciamo di tipo demagogico si è dato un peso assolutamente eccessivo al problema del gioco d'azzardo, che ha una numerosità di malati assolutamente basso, perché non sono mai usciti i numeri delle persone con acclarata patologia di azzardo, ma soltanto delle stime fatte dalle associazioni che tendono a curare questi potenziali malati. E si va verso un proibizionismo assolutamente illiberale. Che non un proibizionismo di cosa, Guido? Ma per ora non abbiamo proibito nulla, ci sono milioni di slot machine. Scusi, ma quale proibizionismo? Ma magari ci fosse un po' di meno di slot machine, ma siamo pieni. Ma quale proibizionismo? Dov'è il proibizionismo? Scusi. Il proibizionismo è in queste leggi regionali. Queste leggi regionali arrivano a giochi fatti. Ha sentito a Milano, proibiscono le slot machine, quelle nuove. Ma è già dilagato il fenomeno. Quindi in Italia è già dilagato il fenomeno. È corretto. Va bene, ma allora non c'è nessun proibizionismo. Guido, c'è un tentativo di limitare, ma non diciamo fesserie. In una situazione liberalizzata che c'è, che non ha creato nessun problema. Va bene, questo è il suo punto di vista. E poi perché ne altri, crea sì. molti più problemi, scusi, secondo lei, sì. l'alcol o il gioco d'azzardo? No, ma intendiamoci, anche l'alcol. Risponda a questa domanda, con i numeri alla mano, secondo lei le persone muoiono in macchina per l'alcol o per il gioco d'azzardo? No, guardi, allora anche l'alcol va regolamentato. Perché per l'alcol non si fanno le proibizioni di venderlo a 100 metri dalle chiese? Scusi, vede che è solo un corso demagogico quello che si sta facendo? Guardi, l'alcol è un altro tema molto difficile, perché c'è il vino e c'è l'alcol. Allora, se vogliamo parlare, il vino è una cultura in Italia, lo beviamo e fa piacere a tutti, non ammazza nessuno, non bisogna esagerare. L'alcol va limitato, va regolamentato sicuramente, come è giusto che sia. Dopodiché non mettiamo a confronto una cosa con l'altra, perché se no non faremo mai niente in questo modo, ha capito? Apriamo continuamente capitoli. Qua non c'è nessun proibizionismo, c'è una presa d'atto del fatto che c'è stato un aumento spropositato nelle nostre città, l'abbiamo visto tutti, di macchinette da gioco, e i comuni e le regioni stanno cercando di limitare. Ci sono molti bar che rinunciano, le tolgono perché vedono gente che si rovina. E io parto da qua, capito? Dai baristi che rinunciano, e cerco di capire come mai. Evidentemente c'è qualcosa che non va, che non torna, capito Guido? Poi, c'è ancora Guido? Lei sì. Sta, non so se sono in linea. Sì, ancora in linea, sì. Allora dico, scusi, vede che è un discorso molto ipocrita che si sta facendo. Sicuramente una giocata alle slot machine non fa male a nessuno. Ma infatti nessuno dice questo. Fare male. Lei fa così finta di non capire, Guido. Fa male. Fa finta di non capire. Va bene, non lo so. Se lei non ha visto che c'è stato un aumento di macchinette in giro in questi anni? Non l'ha visto? Un aumento di macchinette regolari al posto di quelle sì. Irregolari che c'erano prima. Questa è la cosa che prima c'erano 300.000 videopoli. Vabbè, Guido, ha messo anche l'auricolare, quindi non riusciamo più a sentirla. Grazie, buona serata. Andiamo con Efisio, credo che si dica, dalla provincia di Cagliari. Buonasera. Sì, buonasera a voi e grazie per avermi chiamato. Grazie a lei. Premetto che per il lavoro che faccio io, naturalmente zero alcol, facendo il mestiere di conducente di autolinee, quindi per noi è zero, certo. Zero. 24 ore 24. Per quanto riguarda le macchinette, secondo me sì. Lo Stato non ha nessun interesse di abolire, secondo me è solo una bufala, guardi, perché vedo tantissime persone, a parte che ho conosciuto persone personalmente, anche amici, che hanno perso la casa, i familiari e anche l'affetto, oltretutto oltre la dignità. Io lavoro in una praticamente una associazione di Cagliari. La gente è talmente incallita a questo gioco, guardi, ragazzi e non ragazzi. Incallita mi sembra un'espressione aderente alla realtà, sì. Va bene, comunque guardi. No, era giusto, è giusto. Efisio, dobbiamo salutarla però, perché dobbiamo fermarci qua anche per questa sera. Grazie anche per questo intervento da Cagliari, dalla Sardegna, bellissima. Ci sentiamo domani dalle 18 alle 20:30 con Si può fare, in ringraziamento ancora alla redazione. Andrea Piana, Lorenzo Nespoli, Camilla Tomadini, Marco Lombardi, Fabio Cantadori in regia. Buona serata a tutti, ciao, a domani, ciao.